temperatura minima di 9 gradi a Sassari, figurati. Da domani, lunedì, cosa vai? Vabbè, però non aveva dato vento in questi giorni, e invece c'è di nuovo vento che andava a mare, spinge, qua c'è appena appena di, mi sembra sia di peggio, c'è anche una ranghiera, un leggero venticello che è fastidioso, perlomeno per quello che devo fare io è fastidioso. Lì sicuramente è calma piatta, non lo so, però è freddo. È freddo, la temperatura è scesa, è freddo, capito? È freddo, non c'è manco sole, quindi non è che a stare sopra il tetto diciamo che è aria bassa. Sì, ho letto, e poi c'è stato un altro moto assasso, nuovamente la casa è in riposo, e sono due in chivi. Adesso si sono contagiati tra di loro, e tutti i simbovaracci, gli anziani, uno per uno se ne vanno. Sì, ha detto la televisione, casa è in riposo. Sì, contagiati. Poi adesso li controlleranno tutti. Sempre da questi che sono lì, capito? Che non sapevano niente. Questo che è morto, come quello della cardiologia. Non so se è stato tutto da diploma 80 anni, ma dimmi tu. Non ho capito perché non se ne sono accorti. E gli siamo morti davvero. Cosa vuoi che ti dica? No, non so più cosa dice. Tanto. Parliamo sempre le stesse cose, no? Non avevo che mobili. Ehi, anche la mia ex società, la multinazionale spagnola in Spagna, mi sembra che ha donato 10.000 euro per comprare i macchinari. Non è entrato nessuno ancora. Che ore sono? Ehi, sono le 5:15, vai. Mi allontano un attimino e girai. Sentiamo dopo, già è tutto acceso qua, qui. Che attenta che mi andiamo. Ma ormai ci abbiamo questa radio. E io ho spento tutto, non voglio sentire niente. Ho spento tutto KFV, solo 27 stasera. Ho tutta la mattina a radio. Sia in VU e in HF stasera, dedicato alla 27. Beh, sono qua oggi. Appena finito il coronavirus. Sai, mi ha fatto una scheratina che usavamo la bui. Se non mi passano il pelle a bui. Attenzione, radio coronavirus ti amo. Ma dai. C'è Eugenia. Mi stavo lavando, adesso mi sono sdraiato un po'. Che sono un po' stressato. Stavo pure in terra, mi sono fatto io. E adesso mi riposo un pochino, va? Domani continuo il resto. La casa mia, ho fatto. Non è entrato nessuno, Eugenio. Quando pare che c'è che l'acqua c'è sotto fondo, cos'è? Ah, sotto fondo. Adesso alle 16 ci dovrebbe essere i tubi dalle finestre. Ho detto che alle 16 ci dovrebbero essere i tubi dalle finestre. E non l'ho visto su Facebook, perché lui si è buttato la finestra al primo piano. Si è buttato. Stanno facendo cagate tutti, alla fine si fanno male. Se viene a casa, se doppiamo non so così ricompensa. Attenzione, sul canale 10, chi vuole entrare, avanti. Sarà fantasma. Forse era qualche cosa di cui. Almeno inizia la propagazione, così ci divertiamo. Io dalla macchina mi fermavo lì, non è come se sono i vidriati, non c'era proprio un punto dove il cazzo dove schicchiamo a morte. C'era i collegamenti che aggiungate, io, con tutti i paesi qua. Ho collegato una volta un pulco, mi ha accompagnato da Sassari fino a Porto Torres e lo sentivo sempre a posto. No, ho comprato la macchina nuova, non è facile. Perché io non mi accontento di un antennino, io voglio un'antenna che vada bene, dai. Quindi se dovessi mettere l'Arturo 2001 lì, ho altre antenne che sono della stessa categoria, dovrei fare il trucco, non mi fa di rovinare la macchina. Ah, attenzione, un pomeriggio ci si, no, non è entrato ancora, lui è entrato tardi, quando c'è freddo, è come calamari. No, ma lui dovrebbe capirlo, cavolo, se si vuole far sentire si deve mettere un'antenna come si deve, almeno quello. L'attacca al portatile e va bene tutti i posti. Io va bene, non mi sarei accontentato del portatile, ma ognuno si accontenta. Lui non vuole fare nulla, vuole portare. mettere a te. Ma per quello che piace girare, il suo cose girare, passeggiare, infatti sta a soffrire questo figlio perché cammina un bel. Ma non lo so, non ne ho mai parlato con lui di questo. Non lo so, dire una fesseria. Il camperista che conosci tu, conosciamo insieme, ma sai che sta facendo il baraccetto? Ah, ma è tutta la... aveva anche il camper, ce l'aveva il camper, non lo so se ce l'hanno ancora. C'hanno camper, barca, un sacco di roba. Ah, ma se l'ha comprato, non ha detto lui a me, che ha comprato, che avevano comprato il camper nuovo. Era con la ruota. L'hai visto con la ruota? La ruota so che la stava affittando. Affittava quando li capitava e c'aveva il camper. Non lo so se poi l'ha venduto. Pare che l'aveva preso con fratello. Se parli avanti tu parli su quei denti. Ma è perché c'aveva il camper. Ho detto che se parli mi ha detto, parli sto dicendo. Eia. Ho detto, se vale mai, non vale ti sto dicendo, lui mai perché c'è con la ruota. Ma io, questo qui da costruttore, Germania Vittoria, poco più di mezz'ora fa, sono stata la gente che correva alla regaleta, senza mascherina, gente incosciente. No, secondo me non vale proprio due piedi. Uno cazzo non può capire cosa sta andando incontro e che cosa sta andando incontro agli altri. Tu guarda lui. Da stare bene e finire in un forno, pace molto breve, fate pure. Hanno messo il forno di crematuri, dice da stare bene, ma finire in un forno, il pace molto breve, vedete voi cosa fare. A casa, intero tamburi e mascherini, all'ospedale, si uscita la ricca di staccia, vai vai, non ci possiamo muovere, ma se te ne racconto una, io ci... Una volta quando lavorai sono uscito da casa, poco più avanti c'è un parcheggio e ho visto una valigetta a 24 ore. E praticamente era in terra, l'ho aperta e c'erano documenti di medici, uno stetoscopio, roba di medico proprio. E praticamente ho telefonato ai carabinieri e gli ho detto che avevo trovato questa valigia, se potevano venire perché dovevo andare a lavoro e non c'avevo tempo, che lo stavo segnalando, lo sai cosa mi hanno detto? Non si muova da lì sino a quando arriviamo lui, lei è sotto fermo di polizia. E ho dovuto telefonare al lavoro e dirmi che ero sotto fermo di polizia, infatti il principale era preoccupato, mi dice cosa è successo? E poi quando sono rientrato mi ha detto cos'era successo, ma la prossima volta farò una cosa, qui ti darà per un cassoletto, tu ti danno e quando fai corrompere hai sempre casini, ho dovuto aspettare mezz'ora l'ora. Trattato come un delinquente, sotto fermo di polizia, non si muove da lì, no, più o meno, mi ha nome e cognome, lo ha dove abita, è tutto il diritto. E mi ha detto, lì è sotto fermo di polizia giudiziaria, non può muoversi da lì. E invece poi gli ho telefonato io, dopo mezz'ora stavano mandando la patrulla perché c'è che era impegnata, e ho telefonato io per dirmi che avevo trovato il dottore, che praticamente questa dottoressa che c'è vicino a casa, siccome c'era questa signora, ha detto ma non sa della dottoressa che c'è lì, che c'è la pediatra, le ha telefonato perché aveva il numero, perché ha la bambina da lì, ed era sua la valigetta, è venuta lì a Zidana, ringraziando, facendo, poi sono arrivati i carabinieri, e gli ho detto guarda, già fatto tutto quanto, e allora perché non ci ha avvisato, perché è venuta adesso, lei io non ne so bene. Poi la polizia, forse anche i carabinieri hanno detto che la macchina era occupata, non so, ma cosa va, la macchina è... No, infatti, per questo è da sperare, io ho chiamato per una polizia e arrivare lui, andando in pulsi di tempo. Io lo so da un amico, dice che lui, praticamente questo qua, è per carabinieri fuori. Che quando mi segnalano la bambina dico dove vi trovate e loro dico tutta un'altra parte per non andare subito a fare il giro più lungo dove vanno cantando di successo e sarà anche per un carabinieri, ma adesso non lo so se lo possano fare perché c'è il coso satellitare che li controlla e sanno dove si trova, dove sono localizzati, ma prima ce la facevano e ma poi hanno controllo satellitare adesso delle macchine, quindi trovano, sanno dove sono. Se succedesse qualche cosa, loro lasciamo può fare la casa, ma perché io sono segregato, devo scendere anche a mettere in moto la macchina, se fuori va via che quando vado a usare non si può più in moto. È un mese fermo, c'è da usare. Almeno a metterla in moto devo scendere. Ma mia! Io ho preso la tipo 1400 turbo, 120 cavalli, 16 vanno. Ma non è la normale, è quella benzina, gas, turbo, insomma 120 cavalli. Poi ne hanno fatto un tipo che c'ha la coda dietro della un tipo della turbo, hanno fatto una tipo che ha la coda più lunga dietro, invece la mia è tagliata, è come il BMW da. E schicchia forte, cammina un bel 1400, ma è 120 cavalli, non 1420 cavalli turbo. Dove voglio andare io? A gas! Sono arrivato sino a 198, poi mi sono bloccato io che c'avevo ancora accelerato. Mi sono bloccato perché era camion di blu. A gas! E a gas consuma anche un bel poco. E io non ce l'ho ibrida, ibrida, benzina e gas. Ibrida di così. Io con la macchina a gas mi sono trovato bene, quando io ho messo l'impianto a gas nella stanza c'è un vero. Ho risparmiato, ma un bevaro, da 300 passero che ho consumato al mese per viaggiare, perché viaggiavo 4 volte, sono arrivato a 130 euro al mese. No, elettrica non mi piace, non mi dà nessun affidamento la macchina elettrica. Il risparmio c'è, però l'umidità, ogni, se c'è umido, se c'è freddo, se c'è neve, la macchina elettrica ascoltati che parte, perché si ossidano subito i contatti e tutto l'altro. No, lascia perdere. Noi ce l'abbiamo le cabine, per, le colonnine per caricare le macchine elettriche ai granai sotto nel garage. Sì, tu fai la spesa e metti la macchina a caricare, tu quando scendi te la stacchi. Ce n'è una solo, una è riservata al nostro furgone che è elettrico lo stesso. Ma a te oggi ho paura, perché con le macchine elettriche non fa nessun rumore, una attraversa non sente manco il rumore della macchina, lo cattiche. Cosa? Perché non inquinano, questo sì. Però il fatto, te l'ho detto, la roba elettrica, tu lo dovresti sapere più di me, che quando c'è umidità si ossida subito e si blocca. Se devi fare viaggi lunghi, cosa fa con la macchina elettrica? Se non ci sono colonnine da tutte le parti, poi per caricare ci può essere per mezz'ora, un'ora, dipende. Qua non ce ne sono colonnine elettriche, io non aggiungo più la vicina a parte, che strano è che da noi, che perché noi abbiamo preso il furgone elettrico, praticamente della Nissan, e abbiamo preso quella, e una volta che la stavamo prendendo l'abbiamo lasciata per i clienti, capito? Staremo a vedere, staremo a vedere. Tu vedete che andrà per te. Ma il fuoristrada? Semaforo si spegne il motore, poi abbassi la frizione e si riaccende, e allora cosa riuscirà? preferisco la mia come guida, come tutto, come comunità, nemmeno paragone. Lo so, ma io è l'ultimo tipo, l'ultimo tipo della mia, cioè della gente. L'ultimo tipo che ha fatto. Stesso che fai tanti anni di quelle, perché la Jeep è dove c'è la Fiat, lo stesso carreggiato, carreggiato di fronte, però all'interno della Fiat. Thank you. viaggi. Come viaggi dici? Con le droghe. Vabbè. Ma io vabbè, stai bella come. Sono macchine adesso sono molto spaziose, ecco. Non sono più trattori come prima, che anche per me cosa come ce l'abbiamo noi un trattore, quando mi roba tro. Mamma mia! Ehi guarda, se la prendi nuova te la puoi scegliere come vuoi tu, se no qua dovresti andare in continente a comprarla, perché lì si trova centro mercato, si trova più buon prezzo. Queste le concessionarie di abbassare i fiumi, non lo vedi a Striscia la Notizia, campione dei meccanici, che abbassano i fiumi, anche con quelle elettroniche riescono a abbassare i fiumi. Dipende che macchina è, c'è un motorino, è un bel, c'è un motore diesel di quel tipo, tipo le robe, così no. Se le ricordi quel peggio che portavano la gente, quelli di casa magari 350.000 chilometri e camminavano come più facevano che li ha comprati, era Dalla Cantoni che mi ha detto questa qui cammina come più facevano che l'ho comprata e ha 350.000 chilometri. Oh, la mia ora era lo stesso con quel cartolino, la Station Vero. Con 300 passami la più. Io l'ho data così, poi questo qui l'ho venduta un amico, questa amico l'ha venduta un altro, questo qui l'ha venduta un altro ancora, sta sempre girando la macchina mia. Quelli General Motors erano duri, come per la mia, poi hanno fatto parte i motori, hanno messo motori di lusso e non serve neanche, ma la vedete che ho meccanico, prendi le tutte e trarre le opere che c'hanno i motori di lusso adesso. E forse presto ancora, non lo so, io ci sono. Poi alle 6 c'è sempre il canto, le terrazze, il codio, ma la felicità, lui. Scudi, roba così, io l'ho vista che ha tappato un ferro, c'erano tutti quanti i bagnatini dicendo cosa, ne sono passate quattro, le lavandine avanti, sparati, dopo sono saliti sulla roccia, se l'aveva che punta, si sono messi in piedi, hanno girato la moto senza toccare, senza fermarsi, hanno girato la moto e sono usciti, erano bravi, quindi sicuramente lo facevano a tanto. Sono scherzi quelle volte, non c'hanno nulla, ragazzi, roba di sera, roba di salvato, e sono fine fine, proprio, sembrano raccolti. E nel senso che c'erano piccoli, certo che c'era, sennò come cambiano tutta salvato, nel senso che era piccolo, perché non è un salvatoio grosso. Roba di fumo hanno fatto il giorno, ragazzi, proprio. C'erano tutti bagnati giù, pronto là, dicendo di coda, ma dove via da lì? Sono arrivati a Portoferro, sino dove c'è la torretta qua, lì. E si sono messi a fare triati. Erano bravissimi, veramente bravi, guidati. Cazzo, vedere questo qua, che non se ne va domani, un altro la firma da lì, proprio la girata, la impennata, girata per il vescello. Schioso, ma tu immagina se gli fa male una manopola lì, ne piace la vista a Rocca, da qua. Ecco, cosa c'hai per fare il triale? Tutto il piano, cosa c'è, qualche posto per fare il triale? Di fare montagnette, dove? Ma da 6 marci. E quello lì l'ho portato un po' di volte. Andavamo alla finetta vicino all'agraria, vicino a casa, con gli altri saluti. No, quel mio amico ce l'aveva 70, c'è cioè per Simonini 2,50. Erano 4,5 gli amici miei che ce l'ha preso. Erano fissati, ce l'avevo comprato insieme per fare il cross. E lì alla finetta vicino a casa c'era un bel discesore, delle salite da saltare, cose, ce n'era lì. Era una bella pista quella. Thank you. sera che poi capito? Sì, lo so. Non gli ha detto. Questa azienda che ho io, sono quelle da cambio da altre auto, una sola parte magnetica non va bene. Che ne vogliono almeno tre, non ho capito come mi ha detto, ma mi ha detto proprio così. Perché c'è la fase magnetica che c'ha tre canali, capito? C'ha tre filini che attaccano. Ma tu non la devi usare in macchina, la devi usare a casa, e quello tu pensa che la devi usare in macchina. Con la macchina c'è la velocità della macchina che te la fa cadere, ma in casa cosa che te la fa cadere? In casa va benissimo. Devo procurare almeno un pezzo di ferro, almeno di un metro per un metro, ma o magari 50 centimetri per 50 centimetri, buttarlo lì perché quell'antenna non ha bisogno della massa, e metterlo nel portone. Però adesso con questa situazione non mi posso muovere. Sì, vabbè. Ma se la vuoi mettere fissa si va, io ti sto parlando di un'antenna che tu puoi togliere quando vuoi e puoi rimettere quando ti pare a te, cioè per dire vuoi modulare di notte per non farti vedere, la metti di notte e poi la togli, di giorno non la vede nessuno. Sì, ma infatti voglio fare così, comunque le antenne per fare mobile hanno bisogno del piano di presenza, ovvero del piano di impatto. Perché se lo metto nel pozzolo senza il piano di massa non funziona bene. Chiedi a questi qua che io non riuscivo all'inizio, cioè io avevo un'antenna, ho fatto un buco nella ringhiera del pozzolo, l'ho fatto un buco e ho messo una staffa e ci ho attaccato un'antenna e è uscito da tutte le parti. Sì, lo so che non c'è il piano di massa, ma se c'è vero la massa la fa. Appena finisce questa maledizione che abbiamo, vado da Sultano, me la prendo e la metto però a movimento, la metto a quest'ora e poi la tolgo. Ma prenditela grande, perché se la prendi piccola non vai da nessuna parte, già che stai facendo la spesa prendi quella lunga da 2 metri, che quella lì spicchia forte e arrivi da tutte le parti. Sì, ma infatti quello mi voleva vendere. Non aveva la parte magnetica, mi dice. Ma secondo voi la PCC è più fornita? No. La Turbo 2001, prenditi, che va bene. Ripeti, la Turbo? 2001. Quella lì va benissimo. Va come la mando. Poi io, in macchina, sembrava di avere la mando. Arriva con tutte le parti. La Turbo 2001. Quella lì. Oppure... quello che lavorava da Melchioni, che però non so come spiegarti, praticamente devi entrare prima della Renault, c'è una traversa, entri con la traversa, arrivi fino in fondo, proprio nel curvone sulla destra, rimane un negozio che vende roba elettronica e c'hanno le Sigma PLC 800 che vanno bene lo stesso, sono più leggere di quella lì. Più o meno la mese è la stessa. Va bene. Poi quando finisce di prendo tutto questo impulso, se mi sai dire la via esatta, se hai modo di saperla, poi me la vedo io con il navigatore. No, non ce n'è via, è a Pedanieta. Prima era di cosa di Ottolino, se no di Ottolino. Sì. Tu la traversa prima di Ottolino giri sulla destra e vai in fondo, infatti c'è una curva in fondo, proprio sulla curva rimane questo negozio sulla destra. Ma non ti ricordi come si chiama il negozio? No, non me lo ricordo perché ci vado molto poco. E lì c'hanno le PLC 800, le PLC 1000, quelle lì vanno bene come la Turbo 2001. Io lo sfido ce l'ho della Turbo 2001, ce l'ho sfido, però l'ho già promesso, dico la verità. Appena finisce questi arresti domiciliari, ci vado e la prendo, così la metto anche in macchina per poter parlare questa coronavirus, speriamo capisca subito, perché è una cosa allucinante. Ecco, come finisce questo problema, che cosa ce la fai? Ma tu un pochino camper c'hai? Camper? No, negativo, ho solo la mia porta di 4-7 anni. E oggi sei fine di un granchio, non è la camper. E stai prendendo un granchio che non è di camper. Il camper lo sai che ce l'ha Giuseppe. Ce l'ha Giuseppe, è tornato. E anche bello ce l'ha. C'è l'altro il capo. No, lui ce l'ha fatto in piedi e basta. Sta salendo la propagazione, piano piano, sto sentendo gente. Adesso mi un po' grigio, come c'è propagazione, sai quanto ti vive più se ce l'ha con l'antenna? Lo so. Va bene, appena finisce, prometto, appena finisce questo punto, immediatamente me la prendo fino a voi. Poi per effetto, se tu vuoi mettere, metti una staffa, basta una staffa L, una staffa L, vai da Brico, te la compra una staffa L, ti fai Brico ed è fatto il gioco. Se no ti metti una piastra in acciaio, ti fai fare il buco da Paolo, prendi una piastra in acciaio quadrata e li fai una faia L. Se poi la vuoi mettere con la fascia magnetica, oggi bisogna manco di quello, metti la fascia magnetica e poi. No, la fascia magnetica non va bene perché è a forma di cilindro il coso, il passamano del fogliolo, quindi non andrebbe bene. Allora ci vuole qualche cravatta che lo abbracci e poi già si può fare, dai. Si può fare, mi vendono queste cose, non c'è problema. Vendono quelle addirittura per mettere i ferri adesso non sono più come prima che li saldavano e facevano. Adesso i ferri si mettono a bulonati, cioè a braccio, quando sono rotto e passavano, li mettono a bulonati via. E c'hanno quella specie di cosa che abbraccia, quella cravatta che abbraccia, passavano, dai. Conosco. Va bene, ormai voglio risolvere questo problema e non se ne faccio più. Cioè, metti uno di quei tubi delle parabole, a puro, e vado in giù. Non c'è problema, guarda. Così evito anche di venire qui con il cadavere. E allora? Vedi, prendi freddo tutto qua, invece così. Per passare il filo ti fai un pochettino nella porta o nella finestra per passare il filo dentro ed è fatto il giochetto. Sì, certo. Va bene, puoi far entrare l'amico che il portatore si sente solo. Brecco. Avanti. Buonasera a tutti, non ho fatto ascolto ma ho sentito per un attimo Eugenio, Gianni Doppio Room e credo Nicola, l'amico l'altro nuovo che abbiamo sentito l'altro giorno, confermate? Ehi, ciao Robert, hai sentito là? Sì, confermo, dai, quelli che hai detto ci sono e basta, perlomeno, perché sono entrati siamo tutti. Anche? Ah, Doppio Room. Se parlate uno per volta, vi state sovramodulando, c'è qualcuno che ha parlato sopra di te, chi è? Avanti, uno per volta, un attimo Eugenio, parla tu. Facciamo tutto, però è sconsigliato quelli in Kevlar, quelli non conviene verniciarli. Ehi, a quelli che si vetrificano e perdono le caratteristiche di resistenza, per cui non hanno più la resistenza a quella teorica per cui sono stati costruiti. C'era qualcuno che stava parlando quando stai parlando tu? Avanti, chi era? Ma posso entrare? Ah, signor Luca, avanti. Purtroppo oggi non lo sento, però, per caso. Questa è la tua voce, Luca, quella che mi ricordavo sempre. Ottima radio, Mario, il segnale più basso, però la radio è quella che piace a me. C'è Eugenio da Porto Torres, c'è Nicola qua da Sassari e Gianni Doppio Rumo. Passiamo la parola a Gianni che poi farà girare. Ciao Luca, ho sentito l'organità Carrera. Siamo tutti qua, oramai siamo agli arresti domiciliari. Oh, mi devo decidere la scelta di gioco, perché è molto la macchina, già un mese ferma. Sì, Luca Belmonte. Sta facendo un freddo, sta uscito già. Comunque è meglio sempre metterla in moto. Sì, io prima di mangiare invece non la posso usare. Non riesci a sentirlo oggi da Luca? Non lo può usare nessuno, non può uscire. No, c'è da dire, oggi, che lui e credo che c'era un'altra postazione. Confermi, Luca? Lasciate il cortile perché monta la macchina e poi me ne sono al cazzo. Ah, sì, abbiamo parlato uno sopra. Scusa già, non mi sono accorto, stai parlando. Oggi gli ha detto che non sente a Luca. Io gli ho detto, Luca, che tu sei in un'altra postazione. Confermi? Non ha sentito Luca. Luca, quando fa la marina, portati quello modificato, che magari c'è un di tranquillo, perché quello lì la radio ce l'ha forte e ha più. Già, comunque era rispetto, la guerra non lo faceva salire la Libertatore, quello Luigi, come si dice, e poi sono attaccato, ho messo quello della testa G. Perché è vibrava? No, guerra, allora non accendo, fa guerra e poi come mette qua, tanto ancora di più. È strano, io ce l'ho tutti i switch, non ce n'è uno che faccia rumore. Aspetta un attimo già. Oh, vabbè, con questa antenna guarderebbe poco di piglie. Ma ce n'è poco se ne scende. Ma questo guarderebbe neanche. No, diciamo meno di stamattina, sì, il QRM oggi, stamattina era un po' più disturbata, anche ieri sera, ma oggi dovrebbe essere alle 18, che ore sono adesso? Le 16. Ah, 27.155 in USB, ci dovrebbe essere un contest, diciamo, con gli flash mob che fanno tutta Italia, avete provato? No. Aspetta, faccio un salto e poi rientro, datemi un minuto. Sassari, Nord Sardegna, che chiama, cambio. No, vabbè, sento segnali molto disturbati, non lo so, non credo che sia niente. A meno che non sia domani, mi sta confondendo con domani, perché non ero sicuro se era oggi o domani, ora il 22, perché non so se era il 21 o il 22. Vabbè, dai, comunque ricontinuiamo a parlare in questa frequenza qua, su questo canale. Direi di far riprendere a Nicola, se c'è ancora. Avanti, Nicola. Sì, ci sono. Io gradirei sapere se Luca mi riceve. Luca mi riceve, interrogativo. Luca, la cerchietta è un pomeriggio. Oh, Luca deve essere impegnato un pomeriggio. L'unica a mettersi l'antenna è un pomeriggio. Poi ti sento molto. Sì, ma infatti voglio, dato che comunque Cappuccino a Puglia che entra lì a Porto Torre, non c'è problema. Ok, c'era qualcuno che stava parlando sotto di Nicola, ma che non era Luca, tu sei Luca, sei rientrato. Cosa ha fatto? Non ho capito, scusa. Ah, vabbè, no, sto facendo altre cose, come non detto. Avanti, chi è? Avanti, Italia, città di Sassari, Nord Sardegna, anche super cordialità, va? Mi sento molto basso, non so, ma dove moduli? Santiago, non ce la faccio a tirare il mondo. lo capisco, vedo che sta parlando, neanche io, qua è 7, arriva in mezzo al QRM, appena appena più forte del QRM. Attenzione l'amico, se copia la città di Sassari, operatore Roberto, quadrato, cambio. Mi dispiace, non capisco quello che stai dicendo, sento che parli, però la radio è incomprensibile. Dai, vediamo un po' se c'è qualcuno in posizione, prova tu Eugenio, se magari è più aperto per te. Mi sembra sardo e tu non mi hai capito, boh. Guarda che abbiamo un siciliano di Palermo, mi dite tu Nico, che li riconosci le accenti. Ti ha parlato in due, avanti Nico. Positivo, positivo, buonasera. Viva Santa Rosalia! Attenzione, canale 45, greco. Bene, ma se ne arrivo me. Attenzione, canale 45, greco. Questo da Bolzano, è una propagazione da Bolzano. Ciao Tino. Buonasera a tutti, ciao, ciao. Quello che prende nella Mecca lì. Ciao G, ci sentiamo stasera, ciao a tutti, buonasera, dai. E si vediamo a Bulldozer dall'isola di Palermo qua. Non chiama la isola Palermo, perché Palermo le crocche che fa il culo a Roma come abitante, o sbaglio Nicola, ciao T. Palermo sale al 1 milione di abitanti. E poi ci mettiamo gli extracomunitari, sicuramente di più. C'è più un'isola, vabbè, l'isola Sicilia, anche noi siamo un'isola Sardegna, Palermo è enorme, io l'ho vista, ma enorme, una città così grande, è scomposta, non l'ho mai vista. Io c'ho mio cognato che è siciliano, mi pare che te l'ho detto anche Nicola, proprio della provincia di Caltanissetta, capito? Ma Palermo è una cosa allucinante, mamma mia quanto è grande. Ciao Tino, avanti, che sei l'ultimo entrato, cosa stai vendendo? Lamette? No, arance. Perché sto Bolzano sono le lamette. Buonasera, anche mio cognato, palermitano, toc. Arance di Mirisi, oia. Sì, però ho visto, è abbastanza alta con l'antennantina che ha messo, è un segnale basso anche qua, forse ti dicevo rispetto a loro un po' più alto, 4-5 mi arrivi. Ma non risuona molto bene secondo me. No, ma è come l'hai attaccata, senza connettore a barilotto? No, con il suo aggancio, ho fatto un'altra file e ha bullonata sul palo, ma non va bene, secondo me non va bene perché c'ho stazionari e quindi la devo usare con l'accordatore, non va bene. No, ma sì, perché non c'è piano di massa, io ne una nella finestra, però è VHF, sembra un'antenna 27 in acciaio, monopanda, VHF, arrivo ad Alghero, arrivo Santiago 7 ad Alghero, è dalla parte, l'hai vista la parte dei parcheggi interna, però nel marmo gli ho fatto un piano di massa con un, me l'ha fatto Roberto, con un piatto di ferro, di gatto, 20x20, a base magnetica, li ho messa lì, stazionari è zero, arrivo fino ad Alghero, VHF con un FM, devo avere un piano di massa Massimiliano, perché lì si poteva fare, tutte, se usare la saldatrice, potevi fare una staffa da attaccare al palo, saldata però un pezzo di ferro per poterle attaccare la base magnetica, sarebbe andata molto meglio. C'è una staffa palo, così, ho fatto con un... Ti ricordi che avevo messo quella piccolina? C'era anche quella. Esatto, quella lì devo rimettere Massimiliano, senza toglierla dalla base magnetica. La avviti alla base magnetica e la fai lavorare su quel pezzo di piano di massa. Lavora molto molto meglio. Se la stacchi così non va bene. L'ho provato anch'io per evitare di mettere la piastra, invece l'ho lasciata sulla base magnetica con la piastra. E ce l'ho su un VHF veicolare per ascoltare, a volte quando non voglio entrare ascolto lì, ascolto tutti, tutto Sassari, Alghero, insomma quelli che modulano li ascolto tutti. Va bene, avanti Gianni, riprendi. Massimiliano me ne ha fatto uno solo di scatto bello, quello lì era per il 200 operai, quello della pesca, scatto Massimiliano, ancora. Già, non me lo ammetto, cosa era? Un'antenna cinese, non te lo ricordi più. Quello? Ma era l'antenna cinese. Non me lo ricordo. Sì, era l'antenna cinese, i civiliani bracaduti, lo già vede, esattamente. No, te ne ha fatto anche un altro, sempre in propagazione. Non mi ricordo da dove stava parlando. fermati anche di notte da sole in tutta la spiaggia pescando e vedi questa luce che ti va di fronte, senza di un miracolo così. Sì, ci sono quelle lanterne cinesi che poi scendono a terra. Ma lui ci aveva messo la diaframma per illuminare di più, capito? Quindi vedevo questa cosa, sembrava buco. Io ho pesciato un buco, veramente, mi sono bucagliato. Ma è vero, è vero. Ci avevamo messo la diaframma, con chi? Con Gambino? Sì, con Gambino, Bastardi. C'era sempre gente, la notte non c'era un'anima viva, cattero solo, dal buio, pesto, da solo, ti puoi immaginare? Scusa, signor, siamo andati assieme a pescare di notte, mi spiace che non sia mai venuto, però io con mio fratello ci sono andato, mio fratello, altre persone, lì era mai in sorso, verso quella zona lì, e facevamo il fuoco, il farò. Prendevamo prima un po' di legna, ci organizzavamo, facevamo il fuoco, in modo che c'era luce, insomma che si vedeva, ma stavamo al buio. E che ti venga la capitale lì, allora tu devi darti da, ma sai che non si può fare il fuoco di spiaggia, che sono segnali questi. Se ti prendi la cappottaneria con l'uomo e arrivassi alla spiaggia ti avresti tutta esorbitata. Che cosa abbiamo fatto sempre, non sto parlando di adesso, sto parlando di tanti e tanti anni fa. Ci andavamo noi anche sabato notte a fare il falò in spiaggia, mangiavamo anche a mangiare, a bere d'estate. Non ci hanno mai detto niente, assolutamente. Ma ti sto parlando di tanti anni fa e non sto parlando di adesso con tutte le regole che ci sono, eccetera. Capito, tanti anni fa, sì. Vabbè, avanti, vabbè, fai girare. Avete visto quel video di quel ragazzino spacconcello che stava provocando il carabiniere? Qualcuno l'ha visto? Sì, l'ho visto io. Allora di Sassa? No, di Furi, cacchio. Ma guarda, l'avrei preso e schiacciato in terra, mettendo le mani addosso al carabiniere, poi alla fine le bigliate ci hanno buttato dentro la mano. Il carabiniere anziano di esperienza, non reagiva, con lo spingeva. Ma questo moccioso, un ragazzino che poi alla fine si è scoperto che aveva 18 anni. Guarda, l'avrei preso e schiacciato in terra. E poi gli hanno fatto vedere un altro che ha raccontato la balla, lo stesso che l'avevano fermato, e lui dice guarda mi hanno picchiato, meno male ci sono le immagini, la cosa si è inventato tutto, tra l'altro i genitori, questo ha 21 anni, sono delle forze dell'ordine tutti e due, e si è fatto vedere che l'hanno picchiato, si è inventato che l'hanno picchiato. E gli ha detto carabinieri, c'è qualche che ho visto, non ritengo il carabinieri. Ah, mocciosi, erano due ragazzini e più due paio di ragazzini. Tu devi sentire bestemmiando questo, dicendo parolacce, che gli ha detto di tutti i colori al coso, al carabinieri. E quello è impossibile. Alla fine l'ha preso, l'ha girato, le ha messo le manette e si vedeva che scalciava dentro la macchina, tirava. Sono venuti dei colleghi vari più esperti, questi qui l'hanno invidiato e si è comando. E sono venuti in ausilio, non è che sono più esperti. Lo so, ce ne sono bene così. Poi una notte sotto casa questo tipo è andato dalla pizzeria e stavano chiudendo la pizzeria, questo tipo ci aveva la bottiglia di whisky in mano, mezzo vuota, e gli ha detto di metterli da bere, loro hanno visto così che la notte, ha detto che non ce n'era, c'era solo acqua o qualcosa lanciata, e lui voleva tutti così da bere, ha cominciato a fare casino, ha dato della bagassa alla moglie, un sacco di cose, ha preso qui la pizzeria, è uscito, l'ha pigliato con la maglietta ed era andata tutta la maglietta, adesso mi sto stracciando la maglietta, dopo faccio a te così, quindi vattene via perché se c'è non puoi fare. Beh, fatto sta che questo qui prende, si mette a prendere, appugna le macchine, sopra il cofano, ha distrutto tre o quattro macchine e hanno chiamato i carabinieri e sono arrivati i carabinieri, lui si è messo in mezzo strada, per poco non lo mettono sotto, sono arrivati i carabinieri, pure i carabinieri, per poco non lo mettono che gli ha messo in mezzo strada e ha allargato le mani, l'hanno caricato in macchina, ha chiesto da bere, gli porti hanno detto i carabinieri a quello della pizzeria, non è che ci ha mudato la vita, con l'acqua, cosa ha fatto questo per bere, fa finta di bere perché l'ha ascoltato te faccia il carabinieri, dice allora quale cose cambia, l'ha ripulso di manetti e te l'ha ripulsata. Guarda, io dico siamo troppo tolleranti per questo cacchio di gente che si mette a protestare, che fanno subito il video, dico di quello che aveva sparato in caserma la poliziotti, che ha ammazzato gli americani, gli hanno messo le fascette dietro e la cosa per nascondere, gli hanno fatto una tragedia, che vai a farlo in America una cosa del genere, che ti sparano in terra, o in Francia, o visto delle scene allucinanti. Qua non ti puoi permettere, io ho amici nella polizia, nella forza dell'ordine, non ti puoi permettere di sfiorare a uno, perché sennò prendi la denuncia, sono spaventati, dice, ma allora cosa ci stiamo a fare? Poi ci sono questi cacchio di giudici che quando li mettono dentro, dopo che hanno fatto niente, li mandano fuori, non li fanno niente. Vabbè, io mi ricordo di prima, negli anni 70, usavano i mancarini, polizia e carabinieri, li usavano i mancarini, non capisco adesso perché si è cambiata la legge. Io ho visto mancarinando gente per andarmi a Rex una volta quando c'era da Rio Po. Non volevano far entrare la polizia perché c'era un filmato contro la polizia, contro le forze dell'ordine. E hanno messo una scala dall'interno e si sono messi sopra per non far forzare la porta. Hanno forzato la porta e l'hanno buttata in terra. Hanno cominciato a mancarinare gente e a caricarla nei furgoni, tutto il vero casino che c'era. Io ero piccolo, ma non ricordo ancora. Già lo so, ma purtroppo sta diventando, poi i giovani adesso non hanno nessun rispetto per niente, ok. Avanti, chi c'era? Io mi sono ascoltato qualche minuto, c'è ancora Nicola da Cappuccini? Sì, si conferma, ci sono ancora, ma l'hanno visto che stavate facendo, dato che sono passato io. Il problema è troppo tolleranza, ma non è un problema delle forze dell'ordine, ma non è un problema neanche dei giudici. Vabbè, una bella passata ai militari, ai giovani, già li farebbe bene. Io ho nipoti che adesso ormai sono fuori dall'età dei militari, ma io lo dicevo sempre al padre, grazie a Dio sono ragazzi tranquilli, già li conosce anche Claudio, ma cacchio, ma ne vedo certi giovani che vogliono presi e schiacciati in terra senza nessuna regola, si ubriacano, spaccano tutto, distruggono tutto. Che cacchio di educazione li danno i genitori se quelli sono smandati in strada? Guarda, per una cosa del genere l'avessero fatto i figli, li avrei spettati e lasciati assieme a voi. Ok, chi è rimasto? Scusate un attimo perché io ho fatto maleducato, mi sono aspettato e non ho seguito, c'è Claudio, Gianni, Nicola e poi chi c'è? C'è la Tino e Massimiliano, ancora ci sono? Io ci sono, va. Se vuoi partecipare ai commenti, Tino, sono ben accetti. Sì, ci sono anch'io, ma sono ancora in silenzio, guardo un video che per carità fanno solo, scusatemi il termine, cagare, però purtroppo la gente sta impazzendo. E voglio vedere dove questa roba qua, sono in quel Rix, riprendi la sveglia. Positivo, allora, positivo, ok. Come mi ascolti o Robè? Ma di radio o di segnale? Il segnale non mi interessa più di tanto, la radio mi interessa. Diciamo buona, non eccezionale, buona, ti sento un po' un asino, però diciamo è chiaro che ho comprensibile la radio. In certe altre situazioni magari ti ascoltare, ma hai cambiato il microfono? No, negativo. Nasina, addirittura nasina. Ma scusa la domanda, è che stai usando un apparecchio un po' più evoluto? Positivo. E il microfono vuole essere più di 60? No, un più 5. Vabbè, più 5 c'è anche le regolazioni, prova a toccare appena appena la regolazione, magari se cambia qualcosa. Aspetta, Claudio, tu come mi ascolti, è nasina. È un po' gracchiante rispetto ad altre volte, non so il perché. Non so il perché, quanto ce li hai i toni? L'avevamo già regolato, mi pare. Non ho toccato nulla, forse pure poco fa. Guarda, vedete. Ora ho toccato un pelino. No, sembra un po' meglio, Robè. Aspetta un attimo, prova a parlare e ti dico cosa ti manca. Guardando l'orecchio mi sembravano più predominanti i miri. Prova un po', guardando l'apparecchietto di controllo. Guarda a vedere, Robè. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova. Ma adesso hai sollevato gli acuti, prova a mettere un po' di acuti. Guarda così, così li ho sollevati un pelino, 1, 2, 3, prova. Così è un po' meglio, diciamo un po' migliore. Anche se io sinceramente su quel tipo di radio preferirei mettere altri tipi di microfono. Vabbè, non ne ho altri tipi, quindi momentaneamente può andare questo. No, vai, ma guarda, non è per essere critico, non prenderla come una critica, stiamo facendo il pelo nell'uovo, stiamo cercando, va più che bene, ultima la radio, però ti dico, se vuoi un ascolto un po' migliore, leggermente più lineare, ci vuole un altro tipo di microfono, comunque è migliorata, adesso è un po' meno chiusa di, ma qua era un po' troppo chiusa di acuti, ti stavo guardando, c'avevi predominanza di bassi e di medi. Miche, Roberto c'ha lo strumento, regolaglielo tu, Roberto, a strumento. Guarda, Roberto, adesso ho aumentato, sono troppelino i tuoni, guarda se va meglio. Sì, io rispetto a come ti ho sentito prima ti sto ascoltando anche con la parlata esterna, per cui c'ho anche una definizione di coso, di ascolto migliore rispetto a ascoltarla con un baracchino normale, dai. È migliorato abbastanza, dai. Bisogna fare delle prove, tutto chiuso metà e tutto aperto. Inizia, fai un esempio, prova a chiudere tutto adesso. Allora guarda, vabbè, allora ti spiego, allora Mickey Game dalla radio a 2, ok? Mickey Game del microfono a 4 e tuni tutti chiusi. Adesso sono chiuso, aspetta, prova a parlare un attimino, non ho guardato il livello, l'intensità della modulazione, ho guardato solo la cosa, lo spettro. Guarda, prova a parlare se sei basso di radio, se devi sollevare. Non lo so, vedi un po', ti ripeto, Mickey Game della radio a 2 e il Mickey Game del microfono è a 4 e i tuni sono tutti chiusi. Ok, allora tieni presente che quel tipo di microfono c'ha un difetto, se tu sollevi il Mickey Game ti cambia anche la tonalità del microfono, per dire, se tu ce l'hai a metà e lo porti al massimo magari ti solleva il livello di microfonico, però ti toglie, per dire, delle tonalità alte o medie, non è lineare come sollevamento di guadagno col microfono. Abbiamo fatto delle prove decine di volte, qua bisogna fare le prove, prima di tutto chiuso. Se puoi alzare un po' il Mickey Game, magari io solleverei il Mickey Game del coso, non del microfono, della radio. Della radio, dici? Un peluttino, così ti dico se va bene di livello. Guarda, così l'ho portato a 2,5. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova. No, aspetta, ritorno appena indietro. Ok, quindi così era come era prima. Se io te lo porto a 5, invece quello del microfono. Cioè, ti porta troppo i midi, ti sollevi troppo i midi come stai aumentando il guadagno, non ha un'amplificazione lineare, nel senso la modulazione ti sta sparando troppo le tonalità medie, per cui sembra un po' un'asina la voce. Prova a fare invece, rimani come eri prima e mi metti, prima mi dici questa posizione 0, posizione metà e posizione massima, io ti dico cosa accade. Allora, per farti capire, così di nuovo è Mickey Game della radio a 2, a 4 quello del microfono, così i tuni sono a 0, così i tuni sono a metà e così i tuni sono al massimo. Allora io direi questa è la posizione migliore da parte mia, anche se c'hai sempre un leggero difettuccio sui medi e sui bassi, comunque migliora parecchio così la situazione. Adesso bisogna fare le prove al contrario, abbassare il Mickey Game della radio e sollevare quello del microfono e poi viceversa, per vedere se ti migliorano la modulazione. Allora, così il Mickey Game della radio è a 1 e quello del microfono è a metà. Prova a sollevare un po' il microfono adesso. Così il microfono ce l'ho a 8. E prova a sollevare un peluzzino la radio adesso. Così l'ho sollevato un pelino, vedi un po', 1, 2, 3, prova. Ma secondo me è meglio, molto meglio di prima. Chiedi conferma anche a Claudio. Claudio cosa dici? Sta molto più chiara adesso. Sì, beh, io l'ho regolata così a orecchio, tu c'è lo strumento. Notevolmente meno gracchiante, molto più chiara ed è forte lo stesso. Devo mettere a 2 allora, quindi così a 8, anche a 10 lo puoi mettere secondo me, la manetta, il microfono e così a 1,5 la radio, prova Massimiliano. Allora Roberto, per capirti, così ho messo a manetta i toni, a manetta il microfono Mickey Game e 1,5 ho portato quello della radio. Prova a sollevarla a 2 per curiosità. Così è a 2, 1, 2, 3, prova. Ma anche a 2 va bene, dai, non è che cambia più di tanto tra 1,5 e 2, un po' più forte di radio, sì, però già va bene. Processore inserito con la radio. Positivo, così inserito e così è disinserito. Forza Massimiliano appena appena i toni. I toni sono a 8 adesso, da 10 li ho portati a 8. Mettilo a 7. Così sono a 7, 11, 12, 13. Tu cosa dici Rob? Sì, cioè, è meglio 7, dai, è un po', c'erano un pochettino troppo acuti, ce l'avevi, dai. Va meglio, diciamo, un compromesso, giusto compromesso, dai. Perché bisogna fare anche l'orecchio, non solo lo strumento. Diciamo che è un po' più piacevole così a 7 rispetto che metterlo a 10. A 10 ti abbassava i medi, però ti dava un po' troppo di acuti, lascialo così che va bene. Ascolta Romeo, se lo porto così a 6. Prova a parlare. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio. Non ho visto grosse differenze io. Il rilotatore ci vorrebbe un equalizzatore, perché ti abbassavi tutti i medi e tutti i bassi, hai presenza molti bassi di presenza e un po' attenuati tutte le frequenze dai medio alti in su, ce le attenuate. Ma diciamo, stiamo parlando di cose molto molto, come si chiama, però è l'uovo, perché diciamo la perfezione, se vuoi la perfezione devi mettere un altro tipo di microfono, va più che bene, ottima radio, per cui in punteggio da 1 a 10 ti do 7, dai, non posso dire più, magari ad altri gli posso dare un punteggio più alto, ma c'hanno altri tipi di microfoni. Ok, ascolta, guarda, ho aumentato un pelino ancora di radio dal mettendo la radio. Ma scusa, a che distanza stai parlando tu? Una trentina di centimetri più o meno, eh. Allora adesso non parlare, manda solo portante. C'hai il ventilatore acceso, l'alimentatore? Beh, c'è la ventolina, sì. Perché ti amplificano un pochettino anche i rumori esterni, si sentono. Ok, dai, va più che bene. Fino a un certo punto tanto non puoi spingere, cioè con quel tipo di microfono. Non so se c'è già la modifica tu. C'hai già fatto la modifica? No, negativo, nessuna modifica. La touch l'ho cambiato e basta. Ok. Non ha batteria perché prende l'alimentazione diretta dalla radio. Sì, ma l'hai messo la, come si chiama, quella lamierina da dietro, l'hai tolto? Sì, a posto, a posto, ho cambiato anche la capsula. E gli hai messo anche il cottone, diciamo, la l'ovata dietro? Sì, ho messo il cottone. Ascolta, se mi avvicino così cosa cambia? Prova un po'. Adesso mi sono avvicinato 20 centimetri, guarda un po'. Ecco, cambia parecchio. Lo sai cos'è secondo me? Sto pensando a una cosa, siccome è abbastanza diretti, probabilmente ha messo una capsula più piccolina della sua originale, o sbaglio? No, negativo, è uguale, però potrebbe avere lo sfondo marrone e ce l'ha verde. Però lo sai cosa succede? Sono come gli altoparlanti, le capsule, le microfoniche, o sia di coso, di microfoniche che delle cuffie, sono abbastanza direttive. Ho notato che come ti sposti un pochettino cambiano le tonalità, per cui cerca di essere direttamente in direzione del microfono, perché c'ha probabilmente un campo di apertura molto ristretto. Se ti sposti appena spari troppo i bassi e attenui gli acuti. Adesso come ti sei avvicinato è cambiato, ha migliorato tantissimo. Beh, però cosa hai fatto? Niente, guarda, adesso sto parlando più o meno a 10 cm dal microfono. Ma se tu ti allontani non stai usando 60, mi sembra ne avevamo già parlato, ma si vede non più di 10 cm, 15. Ma non ti muri tutto il braccio, e quello non è un 60. Io sono a 30 cm dal microfono. Ma quello no, quello se ti avvicini funziona meglio. E poi togli la smacciai la spugna antisoffio. Via, guarda un po' che l'ho tolta adesso, 1, 2, 3, prova. Cazzo, dal giorno alla notte, non mettere la spugna antisoffio sul microfono, Silvia. Cazzo, guarda la differenza, Robert. Prova a parlare, Massimilia. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova radio. Sì, diciamo, non ho visto questa differenza, comunque qualcosina, un peluzzino senza la cuffietta. La svolta troppo, capito? Soprattutto, va bene, a 60 non te ne accorgi, però il microfono sì, perché la capsula è diversa, è una capsula dinamica di quelle, anche se gliel'hai cambiata, però... Va bene, no, così va bene per me, non lo so gli altri, boh, Gianni, gli altri, boh. Non lo so, boh, forse abbiamo un po' fatto ping pong. Gianni, ho più rumore, mi ascolti? Io non ho immaginato il ping pong, stiamo facendo le prove, non è che... Eugenio, ci sei? Così va meglio, Massimiliano. Così va meglio quando mi avvicino così a parlare? Meglio di poc'anzi, dai. Cioè, gli esperimenti li abbiamo già fatti, noi abbiamo sperimentato direttino il MB più 4 e più 5 sul 440, va molto meglio, devi tenere a una distanza media, non ti allontanare molto, se no ti sperde, invece così è molto più bella. Quindi così va bene, così mi dici? Sì, alla grande. Adesso prendi il metro, misura dal microfono alla tua bocca. Poni un poco di attac, Massimiliano. Io te lo metto un video già. Perché se sgarra di qualche centimetro è un casino. Ti ci metti la sedia, ti blocchi con un coso, che ti assedi la sedia e ti fa un reggicollo tipo quando vai al barbiere, attaccato non ti muovi più. Tu considera, Robè, che abbiamo fatto 1000 prove, Massimiliano. 1000 prove. 60, 80, 85 che è parametrico, non è equalizzatore, è un parametrico. Cosa abbiamo provato anche? Boh, tutti li abbiamo provati, non c'è niente da fare. Deve avere un microfono che ha la regolazione dei toni, altrimenti no, è c'è ancora più cupo con questi microfoni 60 eccetera. Adesso io ho un 80, però non posso portarglielo. Appena è possibile le faccio provare l'80, vediamo se con quella radio lì migliora qualcosa. Non mi sembra molto strano, ma l'unico microfono che andava bene per lui era quello della Dolis grande, la M908. Quello sì c'ha l'equalizzatore, parametrico, ma è equalizzatore. Quello dell'85 non era equalizzatore. È la stessa cosa che io ho, la Dolis ce l'ho io, il 908 è un grandissimo microfono, ma la regolazione ti fa uscire di testa. Posso dire ci ho perso non ore di più per regolarlo quello lì, perché è talmente impercettibile, c'è un equalizzatore a, mi pare, a 5 bande, adesso me lo ricordo, è talmente sensibile, basta che lo tocchi di un peluzzino ti cambia completamente la modulazione. È una cosa, ci ho perso un sacco di tempo per farlo. Ok, ma questo è il 43 che stai usando, Claudio? Sì, sempre il 43, 430. È una bella bestiolina, infatti la modulazione è bella, bella piena, anche Tino una bella botta c'ha la sua modulazione. Io sono con la 48 adesso, Va bene. Anzi, la 44. Io Robert ho sempre detto, tu c'hai la stessa radio, però quelli che portano bene questa radio, e non ce n'è per nessuno, senza offesa per carità, senza presunzione, chi porta bene questa radio, ma da tanti anni, da quando abbiamo iniziato, siamo io, Tino e Natalino Alfa 1. Natalino esce molto, ma molto bene, tant'è vero che molte volte lo chiamavano Claudio Sparviero, esce molto, molto bene anche Natalino, perché abbiamo questa modulazione molto, come si dice, proprio di petto. E anche Fabrizio esce bene, un po' meno, però esce bene anche lui. Ma chi la porta bene siamo noi, non c'entra a fare. Gli altri ci hanno provato in mille maniere. Se tu, quando Gianni ha comprato la radio, che tu ti dici, non esce bene, non esce bene, la radio, fregato, qui, là, non va bene, ho detto portala a me, te la faccio sentire io. Quando la sentite, cioè, non è possibile, non è possibile, cioè una cosa allucinante. Senta Ducan Nudami, le stesse regolazioni che aveva lui, le stesse regolazioni. È un peccato che Massimiliano c'ha una bellissima radio, solo che deve trovare un microfono parametrico oppure addirittura equalizzatore. Guarda se c'è su internet Massimiliano un 908, te lo rigoreggio io. A Gianni io gliel'avevo regolato alla perfezione, usciva così bene con 140, cazzo, poi quelli della tenoce a bascia, troppo voce, no, è qui e là, e Gianni poi si è girato le palle e ci ha venduto tutto. E io posso fare qualsiasi cosa. Non fai nulla tu. Coso, quello dei cappuccini, Nicola, c'è ancora? Ah, ok, no, scusa il monopolio, dai, altre volte ci si dimentica, dai. Ok, no, Tino era sempre, l'ho sempre detto, Claudio e Tino per me le migliori modulazioni qua in frequenza, non viene per nessuno, no, perché sono presenti, quella di Tino bella, mi è sempre piaciuta. Come dico, la modulazione di Luca nei baracchini, numero uno è Luca. No, Luca esce molto bene col baracchino suo, la casa sua, però attenzione che esce molto bene anche Gianni, col Galaxy LMB più 5, esce molto molto bene. Solo che lui usa sempre il Savetta con l'Ecco, se no Gianni c'ha una bellissima modulazione col Galaxy, a me piace tantissimo. Avanti Nicola, riprendi, scusa, ma stavamo parlando di cose serie qua, non è buccia di gioco. No, io ho ascoltato con molto interesse, io di questi problemi non ce l'ho, perché frequentazioni di radio. Ma come assistito tu in un mondo diverso, sai, uno magari può pensare un po' male. E ovviamente la voce è pur baraguro, Claudio, non pensa nulla. Sono momento io, eh. No, non c'è problema, anzi, l'hai pensato però. Ciao Nicola, ciao. Si scherza, eh. Aspetta che saluto Nicola. Ciao Nicola, ben sentito, alle prossime, dai. Riprendi qua. Diavolo sciottino, diavolo sciottino, possiamo permetterci queste cose tra di noi. Ciao Nicola, un abbraccio, a presto. Ma è Gianni doppio root, cosa ti ha portato la spesa? Gianni, ma Gianni si è drumito, col calore della coperta si è addormentato e c'è che sta morto. Riprendi Massimi, riprendi. Brecco, brecco. Mia, lo prefetta. Ciao Gianni, buonasera, per ascoltato. Comunque Massimo, se tu mi mandi il corriere, io te lo mando col microfono, capito? Solo loro possono uscire, quindi organizzati, qualche amico che fa il Corriere Espresso, che passa lì alle punti, te lo mando. Sì, non ti preoccupare, non ho detto che fa presso. Va bene, allora esistiamo, avanti, Robofè. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a loro signori, non so chi ci sia, boh, comunque, a prescindere, salutoni a tutta la ruota, dai. Ciao Vanni, ben sentito. Robert da questa parte, c'è Massimiliano Ottino, che è andato via, Claudio, c'era Gianni Doppio Rum che si è allontanato e boh, c'è nessun altro. Avanti a te. Eia, ciao Tino, ciao Massi, ciao Claudio, ciao a Roberto. E niente, dai. Avanti, Roberto, fai girare, dai. Eia, no, poco fa stavamo parlando di radio, di modulazione. Scusate un attimo il telefono, scusate. Meno male, ciao Gianni, questo è il telefono, è un'ambulanza. Cazzo, i carabinieri vado come te. Massimilia! E io spiego che sono con Salvatore acceso. Ah, è da Gisardelli. È una cosa. Un microfono Gisardelli, meno lo usarmi. Dopo lo provo con il microfono normale, aspetta. Il microfono normale lo faccio sentire io la mia con il microfono normale. Neanche Montino abbiamo fatto le prove. Cazzo, va bene con il microfono normale, già ho rotto le balle, ha tenuto il microfono in mano. Vai ti. Eh sì, con il microfono normale va bene, solo che anche io sono per quelli di tavola. Mamma mia, quanto li odio, ne ho un cassetto pieno, guarda. Cioè tu ti immagini che ho tutte le radio con tutti i microfoni a tavola, ognuno il suo, come gli Aesio e Kevut. Non si può. L'unico che c'è il microfono normale è la 220H, che all'angolino non dà fastidio, c'è il microfono normale, ma VU, che poi lo uso pochissimo perché uso il 275H che c'è l'SM20. Figurati quanto mi danno fastidio. Mamma mia, Gary. Va bene, va bene. Avanti Gianni, ripeti. Ehi, mi sembra di aver sentito Nicola sotto, che stava chiamando. Avanti Nicola. Oh, scusate, che mi devo rompere la radio. Con X per me. Fate girare voi. Ehi, ehi. In 80 metri c'è tutta la banda del gobo, metti. A 3600, non mi ricordo, boh. Tutta la Sardegna c'è. Cagliari, Gusfili, Capoterra, Sassari, Alghero. Quando ho dato quel saggio, hai trae. Sono qua, rimango qua, tutto aspetto, a parte il fatto che mi sono voluto fare da poco, mi fisco, sono già alle 7, mi sto facendo l'aria perché alle 7.10, 7.15, mi prendo il cagnone, me ne scendo un po' giù a prendere la boccata d'aria, guarda per carità. Ok, ciao, ti ci aggiorniamo dopo, dai. Riprendi, Robè. Aspetta, cosa mi stai dicendo qua? Che è negli 80. Ehi, è in 80 metri, se non mi ricordo la frequenza, ma già lo senti. Tanto le volte arrivi 9.30 a me, figurati a te. Non capisco. Va bene, no, non volevo spostare anche perché poi tra un po' qua inizia la palestra in casa, tra parte di run, televisione e quant'altro, quindi è una cosa inaccettabile emulare, là, non so. C'è il Labin Kiwi, Gioia. Guarda di quei prefabbricati, tu che c'hai le mani d'oro, metti. Io ho visto i tuoi lavori. L'avrei fatta lì a un angolino, una bella casettina in legno, stagna, ben fatta, mi sarebbe occupato tutto Trento, ciao, arrivederci a tutti. Mamma, me l'avevo uscito di casa poi, no, cioè, va bene qua, dai. Ma boh, divertitela, sono in correnza. Sì, certo che poi digiuri un casino, perché io potevo farmela su, ma ho preferito farla qua in questa stanza. Ciao, a dopo ti dai, buona palestra. Chi c'è rimasto? Chi vuole riprendere? Sento qualcosa sotto ma non capisco chi è. Perché non va il coronavirus? Allora, avanti il buffet. Quello che ho sentito ancora perché ha chiuso, era qua. Sì, ma l'ho sentito poco fa, tra il passaggio di Claudio e il passaggio di Tino, ho sentito un break della Nicola, poi è sparito. Ma con lui Nicola, e ha detto se ne stava andando giù e stava chiudendo. Massimiliano, ti giuro, l'ho sentito. Ok, va bene. C'è Eugenio, è sparito. Tutti hanno chiuso, anche Gianni, ma Gianni si deve essere addormentato, sicuramente. Altro che era stanco, sicuramente si è... ha chiuso gli occhi. Gianni, attento, l'occhio rotto, sveglia. No, non sono addormentato, sono in ascolto perché mi sto facendo l'iniezione. Scusa, stavamo facendo queste prove. Dai, fate l'iniezione, bello bella, già siamo qua. No, pensavo che ti ha subito. Come ha detto che è stanco. Vabbè, dai, fate l'iniezione. Riprendi, Massimiliano. Appagata, piano piano mi sto ritirando tutto, salvato nel pilulino, e già va bene adesso. Ma non devi zicchiare a però, Rilassati anche su con questa posizione qua perché è un bel forte adesso. Ma non si voglio, mica come uno non muore. Avanti, chi è? Buonasera. Sei tutto fuori frequenza, non sono un minuto. Non so manco chi è. Proprio che non è neanche forte, ma è contro me fuori frequenza. Qua è Santiago 3, ma io non capisco niente. Vedo lo Smith che si muove. No, mi sembra, la voce mi sembra Ramiro, mi sembra. Sì, o NFM. Sì, proprio... sembri come che sembri una naturale. Dove c'è il clarifer? Se sto usando il barattino. Guarda fare che gira, più 10 meno 10, clarifer. Ce l'hai anche tu nel baracchino, clarifer si chiama. Ricordi quello che mi avevi detto tu, che se lo spostavi girava fuori frequenza, era lo contrario. Già può essere, ma non è una radio baracchino però questo. Un po' meglio, ma non molto. E cosa ci avevi, cosa spostato? Quindi adesso si chiarifica. Adesso è meglio. Sono rientrato. Va bene, secondo me devi abbassare un pelino, vabbè noi siamo vicini, ma secondo me devi abbassare un pelino e ti sento un po' impattato, un pelino. E vabbè, comunque là, già è ascoltabile, si può ascoltare, là. Avanti, vabbè. Non ho capito chi è la persona, sono entrato, cioè mi sono sensato un attimino. Roberto, da questa parte chiedo conferma chi è l'altra persona. Tutti i bassi c'hai, Vanni. Se dai appena appena di acuti, senza toccare niente, proprio un pelino di acuti è perfetta. Se Santiago 8 da me è la radio, può essere 5, ma non è questa resa impattata, c'hai troppi bassi. Manca appena appena di acuti. Dai lì sull'equalizzatore appena appena di acuti e sei a posto. Già va bene così, lasciala così per fare due chiacchiere, dai. Rimane un po' cupa, ma manca di medio-alti, ma comunque in linea di massima già si può ascoltare, dai. È rientrato anche Gianni, riprendi il doppio rumo, c'è anche Gianni il profeta. Ciao Gianni il profeta, ciao bambino, bambino, ho sentito. Qua stavo facendomi una pena, là. Ancora meglio da qua, minimo 6 o 7 ancora. E un microfono. Ora. Che cos'è? Ico Moiai su quello. Cazzo, ma ci vediamo, la torre che c'è un microfono difettoso da andare. Non l'ho cambiato per niente. No, detto, ma il microfono normale quale ti ha dato? Quello che ti aveva dato una volta. Ora. 1, 2, 3, adesso sta uscendo. Molto meglio se esce di quello che stai usando, No, non avevo dubbi. Molto meglio. Più corposa la modulazione. vecchio di quello lì, roba grande, no roba. Ma di che cosa state parlando? Perché ha cambiato il microfono? Io mi sono allontanato, non ho capito. Ehi, sta usando il microfono normale adesso, anziché l'MV5. Oh, scusate. Prova a parlare, non ci ho fatto caso, prova. Quel difetto faceva l'altra volta, te lo metti, sempre mantenere il microfono. Ah, bene, sto uscendo. Sì, era grande, Santiago 9. Sto usando qua l'Intec, l'alimentatore, PS2025. Me l'hanno regalato. Mi sa che o mi sistemo uno o mi sistemo l'altro. Questo va bene, Lu. Se non ti fa quel difetto va bene. Santiago 9, Radio 5, sì. Cazzo, io ti sballo, veramente. A me non mi ha mai dato problemi con l'alimentatore, ma ha sempre funzionato bene. Guarda, il tuo stavo che ha del QRM a casa, non me lo butto. Tu, i switch, diciamo, dei condensatori piccolini, che servono proprio per, cosa ti posso dire, sono nella parte dell'alimentazione. Se quel condensatore parte, tutte le scariche, le cose, non so come definirlo tecnicamente, però se parte quello lì si porta dentro tutti i rumori, e quando tu vai in trasmissione ti ritrasmette. No, ma infatti in ricezione, anche se i segnali sono forti, tipo Gianni, o esempio anche tu, sono pochi dietro, ti senti il rumore di alternata. Adesso vediamo, guarda, adesso non c'ho manco coso qua, aspetta. Perché qua mi sta misurando 13 volt. Vabbè, adesso domani me lo porto a casa e vedo un po' di sistemarlo. Mi sembra che quel condensatore piccolino, c'è anche a fianco una resistenza, l'avevo aperto il mio, è proprio nella parte della ventola, della ventilazione, dove c'è l'alimentazione della ventola, ed è quello il casino. Se parte quello, intende tutto questo tu rumore. Sì, allora, c'è così di gioco, allora. Ciao Massimiliano, riprendi. Se era la colpa di Massimiliano. Lui, non lo so se è lui. Massimiliano, non sta uscendo. Hola, hola. Cazzo, c'è un microfono mio qua a terra, raga. Quello dell'altra volta. Cazzo, c'è un microfono normale e tu fa questo difetto di merda, non ho capito cosa c'è. Qualche connettore mai non è stato dato bene, qualche massa, probabilmente. Può essere anche il PTT, perché anche a me facciamo lo stesso difetto, gli ho messo un po' di CRC, del PTT, l'ho sfruttato un po' d'aria, poi l'ho messo il CRC e non l'ha fatto. No, già, ma non è quello il microfono del K, non ha di goji da PTT, no? Cioè è il condensatore quello. Quanto non ha sto vuole, là, corre su questo. Cavagava. Non è come i nostri, già, capito, non è di baracchini. È un microfono particolare, quello lì, l'MC43. Male mi educa, sì. Benemi quando esce Massimiliano, c'è una bella voce, una bella modulazione. Vabbè, claro, ma se non va. Tu hai finito il gioco, vai, ascolti bene a Massimiliano. Massimiliano, questo è quello palmare, prova a parlare. No, questo è l'MP+5, vabbè. È quello che stavo uscendo a colpi, che cos'era? Il palmare. Prova a vederlo, non ho sentito la differenza. Ma esce tutto a colpi, aspetta che provo a rimetterlo. L'MC43, vabbè, il palmarino del Black King. Ciao, lo ascolti bene a Massimiliano? Ciao, no più cazzo, ne ho tanti pari, cazzo, riprendi tu, profe. Io con l'MP5 l'ascolto bene, abbastanza bene. Esce molto bene con l'MP5, tu, profe. Ecchime, va bene, no, qua arriva bello pieno e Radio 5, dai. Davvero, profe. Ciao, Luca. Claro, io avevo messo, con la modifica, ovvio, no, ci va bene, ma è modificato. Modificato, io ce l'ho l'MB+5, però lui c'ha l'attacco diretto, capito? L'MB+5 che c'ha lui sulla radio che sta usando, c'ha l'attacco diretto a 8, addirittura alimentato dalla radio a 6 volt, a 8 volts, capito? Quindi non fa difetti. Se invece le metti l'adattatore fischia. Ho capito. No, io lo usavo, perché prima di qui c'avevo l'MC60. Poi l'avevo restituito, ma c'è un più qua, però va bene. Va bene, di più. Vabbè, mi attento che vado a sciacquata, dai. Oh Luca, prima di chiudere, ma in che zona sei tu? Ah? E che Luca, e me che Luca, in che zona sei trasmettendo? qua vicino, no, che posso dire, abbastanza alla veloce. Ah, sì, sì, ho capito. Ma c'è un'antenna più piccolina, diciamo, della norma. Io ho un radiale di manto, faccio. Una? Un radiale di manto, qua. Sì, addirittura. No, allora già stai andando alla grande. Aspetta, boh. Perché mi è sembrato l'altra volta forse era un pochettino più forte. Oh, adesso te lo faccio io il passaggio, eh. Prendo l'MMP5, le metto l'adattatore e lo attacco al 430. Ti faccio sentire come esce. Ma io avevo... Dai, che a te... Volevo vedere la differenza. Già sei una bomba così, speriamo non mi scoppi niente. Ma io cavolo che ti avevo dato la bomba così qua. Ehi, aspetta, un secondo ci metto. Questo è Massimiliano che non sta uscendo. Vabbè, ma ti arrivo. Aspetta, è lui che stava provando forse Massimiliano. Come Massimiliano? Claudio, non stai uscendo, sei bassissimo. Claudio, ma se vogliamo fuori un po' questo microfono, lo esci. Luca, cosa mi stavi dicendo? Come ti arrivo io a te, guarda un po'. 7 con i picchi positivi. Tu da me sì, segnale 4. Purtroppo ricezione questa antenna poco neanche. Aspetta, hai detto segnale 4, la radio. La radio, oh, che radio stai usando? Aspetta che stanno a parlare. Che cosa stai usando lei? Cosa ha detto? La radio di K sto usando. Boh, no, non ti sento forte, no. Non ti sento forte, Robert. Non è comprensibile la radio. Sì, ma non è spinta, tipo quella di Claudio, vedi? Vabbè, io te presente mi tengo basso di microfono, di Mickey Gain, sono meno di uno. L'altro giorno siccome mi manda laterale mi sono tenuto più basso. Ho capito, comunque vabbè. Ripeto, segnale 4. Hola, hola, uscendo sto. Forte, prove, sì che stai uscendo adesso. Di qua. Aspetta. Ah, ma se te ne vai. Hola, hola, hola. Ah no, c'è la bella batteria scarica, cazzo. Hola, hola, hola, hola. Ecco qua. Hola. Uscendo sta. Sì, se puoi alzare un po' più di volume rispetto all'altro non c'è confronto. Luca, quindi sono bassino di radio, aspetta, mi metto a uno appena appena, perché ero meno di uno come livello, adesso guarda un po'. Adesso sei solo salito di radio. Sei presente, ero a un metro di distanza, ero molto lontano, adesso sono 50 centimetri dal microfono. Sì, aspetta, vuoi rispondere da Luca? Dimmi Luca. Sì, sì, comunque va bene, Robè. Vai, dai, mi aspetto, vado a fare una doccia, guarda, ci arrivo subito. Ehi, a Cla, prova a fare una prova. Allora, così, MB4, cioè MB5. Certo, è fortissima, però non è naturale, cioè sembra che stai parlando con un megafono, però è forte la data. Non posso farlo. Allora, qui dovessero servire mascherine, c'è la fabbrica in giro che le sta prendendo, in pacchi da 20 o da 50, costa 97 centesimi una. Se volete il numero è 079-86-7771. Il giro? Cosa dico, non fate mascherine? Il giro fa materassi, ma adesso sta costruendo le mascherine. Però Gianni, l'hai letto che cos'è? 6 mesi di ordine c'hanno. No, quello lì non ho letto che c'hanno 6 mesi di ordine, però so che stanno facendo anche 500 mascherine al giorno. Ehi, a 0,97 più e va l'una cosa, quella a 4 strati, l'ho letto anche io, con il ghiro di Bonorva, sono una bella iniziativa, però vai a ciappali. No, io ce l'ho. Allora, oh, sei troppo vicino perché sta distorcendo, Cla. Aspetta, che ce l'ho a 5, mettiamolo a 2, ecco qua. Allora, così a 2. Ecco qua, così a 2. No, adesso è una salguba, ma c'hai i toni regolati però. I toni ce li ho a 0, non ho bisogno di toni io. Prova, fai una prova, adesso sono a 0, prova a metterla a metà per vedere. Così ce la metto ai toni. E al massimo? Al massimo sono così. No, metti a 0. Ti aiuto io, a 0 va molto meglio. Massimiliano, questo è l'MB5 con i toni a 0. Mickey Gain della radio, il mic della radio sempre a 1,5 senza toccarlo, e il microfono è a 2. Quindi? Ti sto dicendo, questo è l'MB più 5 che avevo preso da Gigi Vulcano. Ma è inutile, che non si possono fare dei paragoni, la tua timbrica è diversa dalla mia, capito? Quindi no, va bene, comunque sta uscendo bene, però c'è anche Vannino, Vannino, avanti. Sì, Vannino provendi la radio, Vanni. Mi ha colato un po' per me. Sì, sì, vai bene, Vanni, Santiago 8, la radio già è buona, vai, lasciala così. No, va bene, va bene. Tanto di più non puoi fare sicuramente. E già va bene, dai, io mi sono riattaccato il 60. Ok. No, già va bene, Vanni, lascialo così, dai. Ehi. Comunque Massimiliano va bene, adesso la tua, ottima. E così c'hai qua e là l'eco. Ma sei più basso, sei Santiago 3 da me. Forse la Massimiliano arrivi meglio. Qua è 9. Ma io già l'ascolto bene. Ho voglia. La modulazione un po' più bassa, ma comunque arriva bene qua. È stata una bella radio, mi Vanni, esci bene di radio, peccato io ti ascolto basso il segnale. Però di radio è migliore questa, no Massimiliano? Ehi, ma cos'è? Un M300 quello che hai? Sì, esce veramente bene, molto meglio dell'altro. Vabbè, l'altra è un altro tipo di radio, no? L'altra non è per la M, però questo c'è bene. E su internet non c'è nulla. Vanni, sono quelli che si innestano, tipo slider, quelli lì sono. Sì, è flessibile, con la cuffiettina. Sì, l'ho avuto anch'io. L'M600. Quello l'avevo dato a Marco con il Zodiac 23 canali base, perché non c'era microfono a tavolo. Vanno bene quei microfono, vanno bene. Ok, dai raga, io mi preparo e vado a portare il cane, che ho rotto le balle, che stai io in pigiama, ma mi devo vestire, portare un cane, poi dovrò pulire il pigiama, per carità di Dio, che stress sto cane. Dai, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Riprendi Massimiliano. Lasciatelo so. Cosa? Ok, va. Ciao, cla, ci sentiamo dopo. Vai, io... Ehi, allora, prima l'amico di Sosso riuscivo a sentirlo, male ma lo sentivo. Vabbè, un piccolo dettaglio, non so se sia importante. Quando smetteva di parlare, in quei pochi secondi di portante, qua arrivava Santiago 7, però quando iniziava a modulare praticamente scendeva il segnale, sembrava che avesse dei picchi negativi. Sì, Manni, che mi sto preparando, l'ho già detto. Ci sentiamo. Ciao, già, cosa hai detto Vanni che mi sto preparando? Già lo so, quella Vanni è così, non mi beva nulla. Vabbè, ma comunque già esce bene, fottidini. Dai, ci sentiamo dopo, cosa hai detto già? Mettitelo proprio lui. Voi che usate sì 80, no, io c'ho 140 e buh, sì 80 non ce l'ho. Neanche Massimiliano ce l'ha venduto. Che schiena adesivi? Fabrizio deve chiedere se ne ha di quella roba, so che c'è un sacco di pezzi di quelle radio, se c'ha i finali, la scheda finale di quella del 140, che poi uguale al 80, non cambia niente. A lui deve chiedere, no guarda, ti ripeto, stai riuscendo veramente molto bene di radio Vanni, io ti ascolto il segnale 3, però vedi Massimiliano che sei vicino a lui, ti ascolta 9, sicuramente ti ascolta molto molto bene. Ehi Vanni, fate sentire, già siamo qua la sera, dai. Ciao ragazzi, ciao a tutti, io chiudo, vado a portare il cane, se ci siete è un piacere, ci sentiamo dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati, ciao. Ciao Cla, ci sentiamo, anche io ho cambiato un po', là. Ehi, siamo tra il Gubba, che è poco ci vuole. Giappa, giappa, avanti. Ma c'era anche Eugenio, mi sa poco fa, allora, Eugenio, ci sei? Detto che si allontanava, non lo so, c'è Gianni lo profeta, Gianni lo profeta, mi ha chiuso, io sto andando a portare il cane, se mi trattenete, 4-10 minuti risalgo, dai, ok? Non lo so, là, perché c'è Daniela che chiude da sola. Cappa, cappa del Roggero, riprendi lo profeta. Eia, andiamo a me. Ciao, ca, buona discesa col cane, mi sa che io faccio un altro paio di passaggi e poi stacco anch'io, dai. Esercito e passendi? E dove? Non gioco, a chi no che a 7:30, 8 c'è il coprifuoco. No, vabbè, ci mancherebbe, cioè. No, vado a mangiarmi un boccone. Andate a mangiare, andate. Avanti, doppio. Doppio ha chiuso, non si vede. Ok, Vanino ha chiuso, quindi io e tu siamo, la Rosa. Ehi. Andavè, meglio mi ascolti con questo. Va benissimo. Bene, mi piace. Va bene, no, mettiti un po' di soldi a parte. mi sa che non siete pappergate, già lo sai. E appunto, barista, da mettiti un po' di soldi a parte. Bau, micio, oh, yeah. Guarda, io sono contento di quello che ho, per me va bene, quindi... È grasso che cola, dai. Ah, profe, questo è il Massimiliano Bulldozer che conosciamo, ve ne parisce uno. Questo è quello che forte c'è l'aria. Con tutto rispetto all'altra, Massimi, hai sempre avuto ragione, non c'è niente da fare. Mi sa che è un cambio, c'è in programma. per Claudio, scusate. Oggi ho aperto il Jupix, praticamente ho controllato com'era regolata la modulazione AM e ho visto che il trimmer è tutto a manetta, quindi Marco l'aveva già toccato. Sì, ma si vede, cioè si sente, quando usi il microfono normale è bella spinta, c'è poca differenza da quello amplificato già, quindi avevo i dubbi, ma non ero certo, ma comunque un coso ce l'avevo, un'idea ce l'avevo. Miglia Rosè, come sta del pennà, nel testamento, No, non ti preoccupare, no. Va bene. E adesso la teniamo un po', là, facciamo un po' girare. A voi, andiamo a prendere il coronavirus in continente. Sì, sarà meglio, non lo so neanche io qua cosa fare. Aspetta, facci questa bufera, poi già proviamo l'80, vediamo un po' se riusciamo a procurare un equalizzatore come Cristiani, c'è il 508, c'è il 908, già ce ne dai, vediamo qualcosa di farla come Cristiani e portarla veramente, comunque ci bene, non ti puoi lamentare, esci veramente bene, con quelle regolazioni che abbiamo fatto stasera, però questa è una tagliata, questa è la tua modulazione da bulldozer, proprio di quelli non ce ne fa nessuno. Ah sì, cazzo, vieni, mi ci puoi pisciare le volte, sto andando a portare il cane a dopo. Vai, portalo. Impara a comprare la gattetta, le barugane, così non la leggi. Ragazzi, allora faccio una compra da tre quarti. Tra poco vivo da un po', ci metti dentro 30 la piccheriola e lo dubbo quella della vacconi. Ci ragazzi, vai, portalo, poverino, vai, avanti, tu profe. Cosa vuoi fare? Tipo un piccolo impianto di mucitura, tipo che su vari begoli? Lì dentro mi si accompa e va giù io quando scarico lo scarto al bagno, il mangaglio canta sempre a bandiera sollevata, la mamma ragazza sempre all'Ande Caraibe che un cane, sicuro la pompa con la vacone già, acciaio di pesce di pruzzo, all'Ande Caraibe. Sempre col rossetto aperto, Oh. Sì, giù, vecchia, è sempre il mangaglio dritto. Ma che mi metto la doccia, bocca, io me ne vedo calavarmi, mi sono rotto le balle. Non ne hai acqua, vieni qua. No, già c'è l'acqua qua, voi acqua. No, amico, io vado a noi a noi calavarti. Cazzo, io mi fai massa Giovannina più, cazzo, che ogni volta gli stava a meno giuraggi, e diceva, ma lo giuraggi una piatta, la vedi? Per l'assettamento. No, Marco, allora io una fede, non ci mi vede la luce, ragazzi, non vedevo a casa. Fai così, un'impresa, cazzo, la vatti, mamma mia, motivate la dieta, la vatti oggi, un preso. Te ne immagini. No, Massimiliano. Mamma mia, se non mi lavo il tocumare io. Che io tocumare? Luccica, ma è cambiato residenza adesso? No, purtroppo sono tutto qua, cazzo, Massimiliano. Tutto, dalle mutande, le calze, i pantaloni, i golfi, i giubbotti, tutto qua, scarpe, tutto qua. No, pensavo avevi cambiato da una parte all'altra. Adesso vediamo, dai. Vorrei costruire la ghimasse, no io, me la voglio far fare, e la piatto qua, tanto capo già l'ho comprato, sono 50 metri, adesso non mi ricordo, è 58, ecco, il 58 è leggermente più grosso del 58. No, va bene, e quella Mantova, ma perché non te la sistemi quella Mantova, scusa, cosa c'ha? Quella Mantova praticamente ha da rifare le boccole dove ci sono i radiali, funziona, cioè la Mantova funziona perché cioè, la radiale era perfetta. E beh, non fa rifarla. Boh, Claudio, non so, tu ce l'hai già il mostro di Gianni? Mi sono andato a portare il cane. No, se ce l'ha lui, perché non ne ha fatto una, se cioè, questa è nuova, Solo che ha rifatto tutto l'avvolgimento e in più gli ha messo le, diciamo là, le cose dove mette il piede, uno di nuovo, lo stesso, però stazionale non c'era, sempre a due. Regolato la mollone, la spirale, nulla, non fare. Vuol dire che all'interno c'è il filo attaccato. Ma da posto a quella non le metto quella, là. Voglio rimettere il palo e si fa. È più pesante quella lì, la. Ah, te la fa cosa, va? Già ho capito. Vabbè, quella lì è una cosa più leggera. Ma la signoria, quelle autocostruite, ma sono leggere, se le cane non fa danno. Le cane a pesca, se me la costruiscono io compro tutto, c'ho tutto praticamente, là. E allora mettiti quella, che è una cosa più leggera e più pratica da piazzare pure. No, mi guardo i video, me la faccio io, il gru, e si ha andata già le trabine e luci. Sì, vabbè, già ti può aiutare Luca. Ah, se lo vediamo, là. Kappa kappa. È Lello, non apre più lì, oh. No, Lello ha chiuso, tutti in mano hanno chiuso. Ah, Lello ha preso lì a Padanieta, al mercato, c'era cioè, lui quello. Ah, ti do bugia, guarda, si è comprato un tabacchino anche, a Bancari. Ma se non ha preso anche quello del mercato, ci siamo trovati da poco. Non lo stavo riconoscendo, cazzo. Ricordavo magro, io ho capito la caschetta. Poi è diventato, un bel grasso da Lello. Sì, adesso, vabbè, ma del monte è chiuso, perché ce l'ha data ai nipoti, diciamo, là. Poi mi sa che quello del mercato è chiuso lo stesso. L'altro, ma il tabacchino doveva aprirlo, so che un casino, era un po' disperato, là. Chi l'ha dato quello del monte? I nipoti. Ah, sono dei vari, ragazzi. Volevo dare 10.000 euro, cazzo, me l'ha voluto dare, dice che non poteva farmi il contratto, il padrone in casa. Sì, vabbè, comunque il nipote è sempre il suo, lo dà il nipote a fargli guadagnare qualcosina, ma il padre è sempre il suo. Io ho capito, no, io lo volevo dare, io lo volevo comprare, però non si poteva fare, capito, per Ilaria, lo avevo anche accennato. Non si poteva fare perché il padrone in casa non poteva farmi la voltura del contratto. Ma stavo dicendo qua prima che non mi ha sentito. Allora, quella di Gianni deve rifare le boccole, giusto? Sì, devo boccolarlo, praticamente prendere dei pezzettini di alluminio che entrano lì dentro, fate misura e boccolarlo, in modo che entri dentro il radiale in fibra bene e si mette la vite, capito? Vabbè dai, facciamo una cosa, adesso c'è un toccavo di virus in mezzo alle balle, ci organizziamo e lo facciamo. Io già, non so, comunque il cavo ce l'ho, anche il cavo nuovo, non so lo conosci, quel cavo come 58 leggermente più grosso rimane. Sì, quella di Gianni ha detto la vattè, quella non è la mia è a casa di Gianni, ma la devo riprendere perché l'avevo sistemata. Quindi l'antenna è quella di Gianni, io c'ho solo il piantone e quello me lo devo restituire. Capito, me lo metto a posto. Quella di Gianni, il piantone ce l'ho io, è da boccolare. I radiali e tutta l'antenna è a casa di Gianni, bisogna andare a prenderla. Capito? La spirale io ce l'ho, te la metto nuova e basta, in quel piantone di Gianni. Ne un'altra spirale si mette nuova, capito? Vabbè dai, scendo a portare il cane, ciao a tutti, a dopo. Già ne parliamo lui per telefono, vai. Eia. Ecco Massimiliano, ti volevo chiedere una cosa. Ho notato che al 5 come si chiama? Il Typhoon, il beep è bello chiaro. Al 10 distorce un po', come mai? Non ti sto capendo, a 5 che cosa? Allora, nel canale 5 normale, nel canale anche 45, il beep è bello, invece al canale 10 un po' distorce, come mai? Perché vuol dire che nel canale 10 è più stazionario. 10? No, io mi sa 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3. Allora è strano, perché se il beep è normale sul 5, nel 45 e poi per il 10, distorce, vuol dire che qualcosa c'è, capito? In genere non è bella neanche la radio, non la stai più usando quella lì. La casa di mamma, cioè, la volta a molti non piace, non mi piace perché è l'asina, devo cambiare il microfono. Cosa vuoi ti dica? Poi ci va bene con la radio comunque. Vabbè, il tipo mi ha dato un microfono da internet, ti faceva cagare, ma usciva malissimo, Poi vabbè, infatti ero che lui mi spediva tutto, da microfono, insomma, buono, e la stampa sua originale, che ho detto quasi a schifo, guarda, lasciamo perdere. L'ho lasciato perdere io, sennò me l'ha attaccato un po' male. Quindi ti ha mandato un microfono vecchio, sta a faccerà. Ma cosa mi ha mandato? È un... come si chiama? Il cavo d'alimentazione quasi a schifo. Anch'io quando ho comprato una radio da lui il cavo faceva cagare. Senta, quanto ha trovato un bingo in aggiubugato che c'è radio? Che ha pagato, ma adesso comunque gira bene, è vero? Ma si vedia, te la dovrei far sentire, sentire un tuo parere. Non lo so, portarla qua non fa, non c'è l'antenna, cosa la porto qua? Non fa. Poi, dai, un giorno se capita che sei a casa, te la faccio sentire. È positivo, va. Avanti, lo profe. Eia. Dai ragazzi, ne approfitto adesso per salutarvi, dai. Mi sgancio e vado a mangiarmi un boccone. Dai. Buona serata, grazie alla chiacchierata e ci aggiorniamo alla prossima, dai. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori su 10. Ciao e buona serata. Bye bye. Ciao, ciao già, ci sentiamo alle prossime. Avanti Lu. Cazzo, ci mangi un buccone i muri, mi Gianni. Cos'è Lu? Ci mangi un buccone i muri. No, non è a quelli infedeli, dai. Stavo ci vuole, ti mangi un buccone. Andava, dai, ciao già, alla prossima. Ma si mira, tu lo conosci l'alimentatore? Aspetta, ma ti faccio una foto e te la mando, aspetta. Sì, mandami la foto. E già ci siamo, non siamo molti, no? Emilia, vai, te l'ho mandato. No, veramente se ti sia notato tu qui, ma... Massimiliano? Sì, ero lui, la sto guardando. Sì, lo conosco. Allora, praticamente, mi senti? Sì, io. Perciò Mario mi supera... Eugenio non mi senti. Allora, vabbè, adesso non c'ho il... come si chiama? Il tester. Però adesso mi sta segnando lì, se guardi bene lo strumento, a 10, non 13,8, 10, 11, dai. Ma questo va andare a 13,8. Infatti, siccome vorrebbe un po' regolato. Ah, ma l'hanno regolato perché usciva a fumo, ma a fumo non me ne è uscito, non sta funzionando. Ascolta, fa una cosa, dove c'è questa rotellina? Che questo qui è quello che ti alza, ti abbassa il voltaggio. Tu adesso prova a spegnere la radio un attimino e guarda che più o meno dovrebbe avere tipo uno scatto che si dovrebbe fermare sui 13,8, capito? Prova la radio spenta prima, se no rimettila dov'era. No, non è a scatto Massimiliano, ho provato. Non è a? No. È strano. Lo so, è strano, però non è a. E allora, sta parlando Luca, non lo senti oggi? Però non so se sia giusta quella lancetta del volo, perché ci deve buttare un tester di dentro, capito? Per vedere. Allora, o mi sistemo questo, o mi sistemo l'altro che ho a casa, uno della ZG, il 25-30 ampere, ma sì, 25 ampere, o questo o l'altro, perché quello switching dei cinesi praticamente mi crea QRM. Perché non è stabilizzato. Anch'io su questa radio l'ho tolto, capito? Il switching su questa radio mi fa tipo un'alternata, invece io ne ho uno da 10 ampere qua ed è stabilizzato, non ha strumenti, me l'ho regolato io, dall'interno c'è un trimerino, io ho messo il tester e me l'ho portato a 13,8. Vabbè, quello là lo stesso è perfetto, non è che mi fa modulare, però quando lo accendo fa un rumore dentro il baracchino. Poi quando attacco la presa mi faccio il QRM tipo 3, quasi 4. Ma io mi ricordo quello della ZG, ti ricordi che avevano fatto tipo una cosa di scambio, se ne scendeva quello là, ti ricordi? Quello lì è. Il sistema è anche quello, ti metterli tutti e due, no? così ce le hai tutte e due stabilizzate. Quella è una cazzata, per sapere. È una cazzata, cos'è? Lo apri e lo vuoi con... Già aperto l'hai questo che hai? Certo l'ho aperto, non c'è anomalie, niente. Allora prova a metterti il tester a 13,8, 13,9 va bene, anche 13,6, tanto per i baracchini ce n'è alla grande. E vedi un pochettino, glielo lascio un po' inserito il tester a vedere se se ne scende. Capito? Aspetta che riprende Eugenio, avanti Eugenio. Quello switching è un casino, capito? Quello switch è un casino. Io quello attacco, quello lì qua, mi fa l'alternata. Tu come ce l'hai oggi? Stabilizzato oppure di quelli switching? Sì. È stabilizzato quello che c'è, quel trasformatore grande dentro, tutto il rame, mi... capito? Di volte. Ho capito. E poi quello lì è tutto a componenti, tutto a schede, quello switching. Grappa grappa, stabilizzato, sì, già ci sono quelli piccolini così. E vanno molto bene anche quelli. Positivo, positivo il capo a brioche. E quello che c'ha Luca invece è un Intec PS2025, puoi regolare tranquillamente il volto, c'ha gli agganci davanti, puoi attaccare tranquillamente due radio, vabbè, ma c'ha due ingressi diversi, perché sto guardando questo di Luca, secondo me quelli in alto vicino agli strumenti gliele hanno messi troppo. Confermo. Ah, ecco, perché sennò quel modello lì esce solo con un aggancio là. Mi ha regalato Luca, dai. Ehi, no, non sono buoni questi qua. Io me lo... diciamo che ne ho uno un po' grandetto là, però sono due switching da 50 collegati in parallelo. Sono te però, Massimiliano, il discorso, che adesso non usciva a fumo, a me fumo me sta facendo, Sì, il crimbot ha bisogno di un alimentatore e deve avere almeno un 25-30 A, se no non ce la fa a portarlo. Cosa? E cosa avete a dire il 27 o non 27? La corrente è quella che serve. Tu quando accendi il baracchino adesso, se vai negli altri canali, non è che cambia il voltaggio, no? Il voltaggio è sempre quello, capito? Però giustamente quello lì quando muovi lo devi mettere 10-20 watt e poi va a salire, capito? Quando vai a modulare sale intorno ai 50-60 di picco e quindi ha bisogno di ampere. Anche quello, è vero. Sì, ma ci sono quelli switching da 30 ampere, costano intorno ai, mi pare, 30 euro, una cosa del genere, 25. Beh, per prendere un coso, oggi, per prenderti un turbo, un Galaxy a 250-300 euro, ti compri a 340. Cosa? Va bene, l'alimentatore con 25 euro lo prendi. Così è lui. Quanto costano quelli dei cinesi, quelli da 30 ampere? Allora, quello da 50 costa 37 euro. Da 50 costa 37, così è. E da 30 vai che costa una trentina di euro. Da 30 costa 20-22 euro, figura. Ehi, dal cinese li trovi oggi, allora, da muraglia, vi. Ma io ce l'ho un sacco d'anni, e ancora sta andando. Ma sì, quando li compagni di lavoro, non sono cinese come stesso. Non è bellissimo da vedere perché è tutto in acciaio. Cosa di una furti, lo metti sotto da una parte. No, quello strumenti non è. Niente strumenti. Eccomi. Ehi, acqua. No, le stavo spiegando a Eugenio che mi ha chiesto per far andare il crimbo se ci vuole l'alimentatore un po' più serio, va. E gli ho detto ci vuole almeno un 30 ampere. E gli ho detto se lo prende quello dei cinesi, 30 ampere, 20-25 euro, e lo fa andare bene. Sì, se poi quello a 50 è meglio perché... se non dovesse veramente prendere una delle mie radio, queste scherreggiano forte, io a 50 watt, 60 watt di portante ho 20-22 ampere di assorbimento. Sì, va bene, anche un 30 va bene, a voglia. Esatto, non è che lo tratta a 50 watt, è giù. Sì, guarda, Eugenio, puoi fare un affare con Massimiliano, tu mi... Capito? Perché io ho preso questa roba a Massimiliano, non te lo posso dare. Quindi... Metti d'accordo con Massimiliano, mi ti prendi quella di Massimiliano. Io te lo sto dicendo perché quella di Massimiliano è più nuova della mia, capito? È più nuova della mia e quindi faresti un affare. Porti via la radio col microfono, mettete d'accordo, ti fa un buon prezzo e lui già se ne prende un'altra, non ce n'è problema. Se piglio un baracchino io. Ehi, un cazzo di biglietto, allora sento guardare. Oggi aspetta che ti mando una foto. Senti, G, ma il rimettatore che c'è a Massimiliano non ce n'è per nessuno, la faccio la stessa non ce ne siano. Forse Gigi ce l'ha uguale a quello. C'è un alimentatore, hai visto il case del computer, così grande, 150 ampere c'è. Cosa devi alimentare? Una cosa di quello, lui c'è anche il sistema 24, no, quello è un alimentatore autocostruito, cosa ha fatto lui? Ha comprato gli alimentatori dai cinesi, li ha messi tutti in parallelo. Danno 120 o 150 ampere mi sembra tutti assieme e più l'ha fatto la linea da 24 volts, ma è molto bello, eh? È un case di computer, un dentro è tutto pieno di alimentatori, fuori non vedi niente, c'è lo strumento, tutti i connettori per attaccare le radio, molto bello. No, grazie, stai sbagliando, i 150 ampere ce li ho a 24. A 12 sono 300. È vero, cattivere bagliente, vivo 150 ampere a 24 volts, 300 ampere a 12 volts. Guardini, vai, per attaccare tutti i 7 biazzi. Mi sembra lo faccio fare uno uguale, mia Massimiliano. Di case, di computer ne ho un altro. Un altro, ma te la porto in massata, l'ho provato. Non me lo posso fare, lo si attacco tutti le radio, non unico alimentatore. Io ne ho 4 alimentatori, anzi 3 alimentatori. 50, allora 60 ampere, quello della Prox, 50, l'altro della Prox e 35 l'altro della Prox, quindi sono 6, 5, no, 150 ampere anch'io, c'ho però con 3 alimentatori, capito? Poi ne ho fatto un altro più piccolino, 100 ampere a 12 e 50 a 24. Quello piccolino, l'ultimo che ho fatto. Bello, ma ti sei specializzato a fare quella cosa? A me non lo vemmo. Lo vemmo. Ok, se ti sei specializzato, massima fiducia in te. L'ok, compriamo gli strumenti, compriamo tutto quello che ti serve, lo facciamo. Così attacco tutto lì. Non ho goduto là dietro, perché ce l'ho con gli alimentatori, ci vediamo verso la finestra, non a base, non si vedono. Sono sotto, sono distanti dalle radio, gli alimentatori a fianco alle radio solo perché si illuminano, non mi interessano. Capito? Però quello è lo stesso, rimane all'angolo, però va bene, sì, appena abbassa la cosa è un vermo, lo facciamo. Avanti, lui, riprendi tu, che mi spoglio, salvo attraverso. Già se vuoi lo procuro io, tanto già so dove andare. E anch'io so dove andare. Ah, bene, ok, dai. Mi lascio la 25 sta preparando, mangio un panino stanotte, là. Tipo un panino che vende, adesso, boh, qualche panino tecca. Ma leggero, un po' di frutta, non lo giuro di mangiare roba pesante. Oh, c'è l'aria ai fornelli stanotte. Mi sta facendo qualcosa con l'arancio, boh, non lo so. Vabbè. Ok. Sì, ma aspetta, ancora ci sei. Cambio. Sì. Senti, oh. Al telefono non lo vedi, cambio. No, non l'ho visto, adesso l'ho preso. Tutto, no, giro là, Lucarie. Diretto con lo suo spinotto, non è bisogno di batteria, che aspetta che vada a prendere il telefono, ce l'ho qua. Cosa? No, basta con le moto, già mi lasciai se li faccio. Oh, scatto, non ho fermato l'altro giorno in moto, lo sai. Con la macchina anche tu, sono con mia figlia. Gappa, come stai usando Massimiliano adesso? No, Massimiliano, ho detto che radio stavo usando adesso. Capo il bugnetto. È sparito. Ah, è andato a prendere il telefono. È bello, profe. Ma chiuso, profe. Oh, profe. È un ripreso, scusate che l'ho mia figlia, non intende a posto. È malo un rosso, ma si vede. Cosa? Un rosso, malo è. Un rosso? Un rosso o un bianco. Ma di che cosa stai parlando? Vino. Vino? Rosso. Ah, ma che c'è rosso lo stesso. Non è malo. Chiama, rosso. Hai detto che avevo niente, che radio stai usando adesso? Sto usando l'S9. Sono bene. Cappa già. Ehi, ma secco Massimiliano, o poco dolce ti piace? Un po' non proprio secco, una via di mezzo. Secondo me, se non mi piace. Allora, questo qua lo sto bevendo è di... Dove va quel vino, Maria? Maria? Di Dorgali. Già buono, già buono, Dorgali. Lo fanno buono il vino. Vedi, quello di solito è buono, però è pesante, ti taglia l'anche. Io ho dato Badrumi, voglio un eppente di oliera stanotte, non va bene. Cosa? Che c'ho un eppente di oliera, non va bene, per dormire lo opro. Ma tipo, così diciamo, ma tipo, ma, vabbè, già si devo coprirsi. Sonnifero. Ehi, sonnifero. Ma bicchieri di quello, ma bicchieri di quelli non molto rospanti, eh. Cazzo c'è la rete, come bene, mi aggiornare quello che fa. Chi sono i piccoli quello di faccia... Ma ti impinava con giù qua. È forte, 16 gradi c'era. Portati l'aria, un po' di vini. Sono forti, cazzo. A me piace molto quella Monica di Sardegna, non è forte forte, c'ha un bel gusto. Ah, abbiamo regalato una bottiglia di vino, poi ti dico il nome. Allora, l'aria ne ha preso in offerta, ma il del rappresentante che li porta al bar dove lavora lei. Quante bottigliera ne dà di vino? Mi dà? 12, quanto? 50. Ne fatti 50, va bene. 12 bottiglie, ma tutte di marca, vini buoni della Sardegna, 50 euro. Cla, questo qua è, ci sei? Sì. Duchessa Lia, Dolcetto d'Alba. Sì, sono buoni. Sono buono, no, ma io sto parlando di Monica di Sardegna, Camano di Sardegna, Nepenta di Oliena, quello di Dorgali, Fini di Dorgali, tutti della Sardegna, perché il suo titolare è sommelier, capito? Vende anche il vino. E quindi gli ha fatto un'offerta. E ha detto, troppo vuoi un po' di bottiglie di vino buono, dice, guarda, ti faccio l'offerta. Io ho 12 bottiglie che costano un sacco di soldi per 50 euro. Ma buone, io ho ancora un po' di bottiglie. Ma ce ne sono uscite un bene nel periodo di Natale, che a me il vino così mi piace, se no magari tipo quello che bevi tu, però magari stai mangiando carne così, una rostita, là va bene, se no mi si fara, c'è questo qua che prende Marina, è buono, ci guarda che non piace, sono qua, non sicuro, a 1000 per 1000 sono sicuro. Guarda, se tu prendi a tasso zero, perché costa poco, il boccione del Drugal, che è praticamente il filiere di Dorgali, ma lo sai che anche è buono, è buonissimo da pasto, è molto buono, leggero, buono, rosso però, è non rosato, è rosso. Questo qua che bevo io è poco, è un cerdo, si sente, però è troppo secco, lo metti qua, infatti questo Duchessa lì, era troppo secco per me. A Maria gli piace, però Maria beve il bianco. Sì, vabbè, ma c'è il Dolcetto d'Alba, si chiama proprio così, capito? Si chiama così proprio perché c'è appena le dolce, ma sono vini buoni da pasto, non c'è problema. E tu Massimiliano, vino stai bevendo, sempre birra. Cavolo e bugnè. Ehi. Tua mamma mia, come sto che... Ma ci bevendi tu, vino o birra? Io? Sì. Perché? Un goccetto di vino. No, che ti vuoi quella roba? Che appagazza. Allora, Eugenio, mi senti? Questa è la radio. Allora. Sento mia figlia urlando, aspetta, Così ce l'ho a 20 watt e c'ha picchi di 70-80, bene va. E allora? Accordato l'automatico, e già ne ha di cose, ha 100 memorie, già ne ha. Più ne ha che più ne metta. Luccanie, come mi ascolti? Aspetta, mi avvicino al microfono, come mi ha detto Claudio. Bene, stai uscendo, bene. Così è regolata bene, è vero. Sono a 10 centimetri dal microfono. Così devi modulare, Massimiliano. Sembri con 60. Non ce l'ho fatta questa differenza, Non ne sono mai accorto. Sì, e non lo usano senza cuffia di protezione, capito? Senza cuffia di soffio, perché spinge di più. No, così sono con la cuffia, però il Mickey Gain non ce l'ho neanche a 2 ancora. No, non toccarlo più il Mickey Gain, no, se no strappi e diventa troppo gracchiante. Lasciala così, che Roberto te l'ha misurata con l'analizzatore, lui c'è un analizzatore, capito? Ed è regolata bene, se lo dico io lasciala così, non tocca se. Eia, anda bene, forte oggi date la radio, va bene, segnale com'è? Gappasa. Quando ti arrivo io invece dalla montagna? Capito Dio, vabbè. Io ti vedo e anche lui, sicuramente per lui è più avvantaggiato, è più vicino, è a metà strada. Va bene, io sono con 20 watt di portante e 40 modulati. Beh, certo che sì, ci mancherebbe altro, ma io sono 20 watt. Non sto tirando, pure sono col 430, non col 440. 430. Vado a 20, vado a 80, si frusci. Poi se sono parlato vado a 20 a 40. 20 giusti sono? Sì, 20, 21, 22, dai. Io ne ho 15. Io ci vediamo. Ma per l'usione facciamo noi, sentiremo tutti. Ho voglia. Ho voglia. Oggi questo ti controlla anche le stazionarie, il VAT, tutto ti controlla. Ti accorda anche l'antenna. Allora, guarda, è oggi il segnale. Aspetta e sollevo, Da così. Così a vedere. Pezzo, non ce l'hai la radio. Non smettere di cilato. Massimiliano. Da così 15 watt di portante bianca. A 50 watt di portante bianca non cambia niente. Da così. Cambiato Massimiliano segnale. Sì, da 9.15 vai a 9 quasi a 30. Già cambia, vedi? Senza lignarimi. Queste radio sono così. Da 0 a 100 watt. Mettiamo com'era. Eccolo qua. Il problema non c'è qua Massimiliano. Anzi, non è un problema. Allora, stazionarie, controlliamo sempre dalla radio. 1 e 1. Watt 20, quello che segna lo smitter che c'ha tre scale oggi, che è uguale a quella macchina, c'ha la scala della S che segnali 1, 2, 3, 4, 5, c'ho la scala sino a 9 più 60, sotto c'è la scala dei watt da 0 a 100 watt, sotto ancora c'è il rosmetro, tutto dalla radio fai. Lo sai, barocca, te lo mugni, a quest'ora l'avresti avuta un sacco di tempo, considerando il fatto che ne ho venduto 2, Massimiliano ne ha venduto 3, almeno c'è una radio, ma vedi che non hai bisogno di niente, cioè non ti sento, sei basso, hai zitto appena, dalle aria, vedrai quei 10 watt in più, tanto ne hai 100 a disposizione, a voglia. Allora, c'è il potenziometro dei watt, tutto esterno, tutto controllato dalla radio, tutto autocontrollato, la sera quando uso questa radio io, queste radio, non queste, io ne ho tre, tutte e tre diverse della stessa marca. La sera quando li uso, la 1986. Non ero manco l'arrivatorio quando c'era questa radio. Assolutamente, ho sempre usato queste radio. Ho comprato il primo 430 da vari lottari. Ho tenuto una vita, poi l'ho cambiato, ho preso l'FT757, la linea IGX, poi l'ho cambiato, ho preso il GX2, sempre linea completa, e poi sono tornato in capo perché è uscito il 440, quindi avevo venduto il 430, ho preso il 440, poi alla fine mi piace averle tutte, sempre, mi mancano i 680 che l'ho venduto, se no ce le avrei avuti tutte e quattro di nuovo. Capa di rosmetro, vabbè, ma cosa ci mangia Canotti? Che sono venuto a mangiare, faccio una mamma e ci bugiego. Qual è il potenziometro dei watt? Ma non l'hai mai vista la radio? Non gliel'hai mai data la foto, ma ci viene. Carrier, in inglese vuol dire potenza. E quello è? Quello nero, praticamente quello esterno, è del Mickey Gay. Quello interno, con la bandina rossa, quelli sono i watt. Con quello tu puoi giocare anche De Biasi. Una bella radio, bella, c'è la tastiera, puoi fare i numeri direttamente alla tastiera se sei fuori del UFO, oppure li puoi memorizzare sino a 100 memorie, no, ma è un'altra guba, io ho anche il 430, questo modulando adesso, però non c'ha le cose che c'ha il 440, ma è una bellissima radio anche il 430, molto funzionante. Poi signor, mi pare una cosa, me ne scendo giù io a mangiarmi qualcosina, no? 4,40, 4,40, 140 ce l'ho io, ed è completamente diverso da quello. Non te l'ho mandata la sala radio mia? Provati la mando, così ingrandisci e ti guardi la radio, ok? Ehi Massimiliano, vai, perché intanto io mi sto mandando questo a lui, e poi chiudo anche io, e Eugenio, eccolo qua, adesso te la mando. Vabbè, dai, ci sentiamo qua, ciao Eugenio, ci aggiorniamo, là. Buona serata, buona continuazione, buon di tutto e a domani, a tanto che domani siamo in casa, quindi non è un problema. Miau miau miau, ciao. Ciao Massimi, saluti a casa, ci aggiorniamo domani, dai. Ok, stammi bene, già ci sentiamo. Lascia perdere, oggi quelle che sono sopra sono tutte radioamatoriali, anche quella che c'è al fianco all'angolo. Quelle che sono sotto, che c'è un microfono per ogni radio, c'è da sinistra verso destra, 4,30, 4,40 e mezzo e 140. Quello in mezzo, in basso, quello lì. Poi se vedi, hai visto l'altra grande, quella la prima che c'è a Brandeman, quelle sono amatoriali. Quella che affianca 4,40 che è spenta, invece ogni microfono Kenwood 50, 60, 60, SM20, 60, vedi, se vai in fondo poi quelle sono tutte amatoriali. Hai visto? Che ordine? L'esperienza te la fai nel campo, il problema è che io ho un altro tipo di attività, per forza guardare quelle, se non penso che pesce tutti i cigarri di nano. Ciao Genio, un abbraccio, buona cena, domani, cambio cambio. È bello quello, bip. Sentiamo domani mattina, tanto siamo a casa, quindi. Non possiamo andare da nessuna parte anche se domenica la massa nell'invaria, che si manca a pigliare i bacchicini, possiamo andare a casa.